È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La zanzara di Giuseppe Cruciani. Pietà, questo è l'atteggiamento, caro Parenzo, che sembra avere, in che senso? L'opinione pubblica nei confronti di tutta la classe politica. Cioè, qualcuno dice: è tornato il clima del 92 di Tangentopoli. E qualcuno ha anche detto di radio parolaccia, cioè quando su Radio Radicale si sfogava la gente contro la politica annunciando quello che sarebbe successo dopo. Senti, bei tempi. Ma che bei tempi, bei tempi. Perché dici così? Perché sarà colpa a te piacciono anche le manette? Ieri ti ho visto in televisione agitare le manette nei confronti del signor Stracquadanio, che tra poco presenteremo, e anche nei confronti dell'onorevole Verdini. Era un espediente. Come mai? Perché era un espediente narrativo. A te piace questo clima di manette in cui la gente va in galera, in cui le persone sono di fuori al Parlamento con i forconi? Non c'è nessuno fuori, purtroppo. Io voglio il movimento degli indignati come in Spagna, perché una una classe dirigente deve farsi apprezzare, non disprezzare. Vabbè, questo è un argomento che affronteremo più avanti. Sì, intanto manda la vostra. Però, da quando c'è un argomento che non le piace, dici: no, questo affronteremo Pionati. Dopo, la santa, ascoltiamo dopo. Pionati per strada, assalito, tra virgolette, da un cittadino che gli rimprovera la casta, reagisce in questo modo. Non c'erano gli estremi per metterlo in galera, perché non c'è nulla, né il pericolo. Zitto, vado un buco. Voi siete i rappresentanti del popolo. E lei porti il cane a spasso e non rompa le scatole. Questo è mille volte più intelligente di lei, questo qua. Lei sicuramente. Lei come giornalista faceva schifo. Sì. Come parlamentare e come uomo, ve lo dico, napoletano è proprio nonna. Sì, sì. Vada. Ma non l'ha capito ancora questo, dove ci porta sto pezzo di merda? Non l'ha capito ancora. Vediamo quelli che vengono dopo. Stia a inciucciare. Mo, questa è papa. Ma la prossima sarà lui finalmente. Tranquillo. Vedi, questa è la prova di che cos'è l'Italia oggi. Va bene, oggi Napolitano, avete sentito anche dai giornali radio, ha detto alcune cose: che è intollerabile lo scontro tra politica e magistratura, ma in realtà non è da oggi. Ha detto anche che i magistrati qualche volta si espongono troppo, ha detto anche delle cose sulle intercettazioni telefoniche, dell'abuso delle intercettazioni telefoniche. Intanto sentiamo Stefania Craxi, la quale sostiene che ieri alla Camera sull'arresto di Papa si è consumato una specie di congresso della Lega. Sentiamo. Qualcuno ieri giustamente in Parlamento ha commentato: si è consumato il congresso della Lega sulla pelle di un nostro deputato. Concordo pienamente con questa affermazione. Il problema è che il suo alleato di sempre, ovvero Bossi, ha perso anche lui. Più o meno le stesse cose dice il ministro per i beni culturali Galan: sulla pelle di Papa gioca interno alla Lega. Ma io voglio farvi ascoltare Paolo Mieli, che fu una figura importante all'epoca di Tangentopoli, il quale dice: se non arrestavano Papa era la goccia che faceva traboccare il vaso. Ottimo. È contento, secondo me, Mieli. Ma che contento di quello che sta chiedi accadendo. Chiedi a Vittorio Feltri. È contento. Chiedi anche è a contento. Vittorio Feltri. Chiedi anche al nostro Feltri. Amico Vittorio Feltri. Rileggiti l'Indipendente del 92-93. Ma certo, c'ero, ci lavoravo. Bravissimo. Infatti. Mieli, fammi sentire Mieli. Proviamo a immaginare cosa sarebbe stato stasera e domani mattina se quell'arresto di Papa fosse stato negato. Beh, insomma, in un momento come questo, con crisi economica, provvedimenti necessariamente impopolari, disordine nella maggioranza, ci mancava solo questa goccia e il bicchiere probabilmente sarebbe travasato. Sarebbe travasato. Secondo me non sarebbe successo nulla. Non è che poi uno deve decidere in base agli umori della gente. Come si valutano gli umori della gente? In base a che cosa? Rileggete, cioè, ci sarebbero stati forconi? No, questa cosa non la capisco. Rileggete Feltri. Ultima cosa, ultima per modo di dire, naturalmente, di questa introduzione della zanzara: Lepore, il mitico Lepore. Io sono convinto che Lepore, che è il capo dei magistrati di Napoli, diciamo così, il procuratore capo di Napoli, se lo chiami al telefonino, qualsiasi persona chiama e risponde, senza rendersi nemmeno conto di dove sta parlando. Poi tra poco. Va in pensione tra poco. Dice, l'arresto è un avvenimento molto positivo. L'arresto molto positivo. Senti. È un avvenimento molto positivo anche nei confronti della popolazione, perché in genere il cittadino pensava, no, era una sono delle persone immuni da tutto, mentre i cittadini comuni non hanno questo privilegio. In realtà Lepore dice anche un'altra cosa che viene messa un po' in disparte da parte dei grandi giornali, perché dice una cosa scomoda. Dice che bisogna chiudere, peggio di Berlusconi, chiudere i giornali che pubblicano le intercettazioni. Lo ha già detto in una televisione privata napoletana, lo ha ripetuto questa mattina durante la trasmissione di Alessandro Milan. Dottor Lepore, Lepore. Cioè, ci sono due cose, resto molto positivo, dall'altra parte chiudere per un periodo, una settimana, un mese, i giornali che pubblicano le intercettazioni, anche quelle depositate, dice. Beh, Lepore. Caro Lepore. Lepore, vai con Lepore. Per un giornale pubblica una intercettazione che non dovrebbe invece essere sanzionato con una multa, con una sanzione pecuniaria, una chiusura dai 5, 10, 15 giorni a seconda della gravità del fatto. Personaggio strano questo Lepore, il quale dice anche che la carriera di Buduk è stata fino adesso positiva, cioè lo dice lui. Beh. 800 24 00 24, Giorgio Stracquadanio è con noi in buonasera studio. Buonasera a voi. Come Giorgio va? Clelio però anche Giorgio, tu sei fissato con Giorgio Clelio Stracquadanio. I nomi vanno detti completi, vanno detti ma è già troppo lungo. Sì, Giorgio Stracquadanio, vogliamo allungarlo di più. Che qualcuno una volta ribattezzò Straguadagno perché disse che voleva aumentare lo stipendio. No, aumentare no, disse che lo stipendio del deputato era adeguato al lavoro che facevo. Ho tradotto bene? No, doveva essere adeguato al lavoro che faceva, cioè addirittura più basso, proporzionato adesso al lavoro che faceva, cioè non paghiamo tutti nello stesso modo. E vabbè, questo non è possibile. Sì? Come si fa? Basta misurare le presenze. Ma vere. Questo già lo si fa attraverso le no votazioni. Perché si misura sulle presenze dell'aula, che sono una parte. Cioè se uno è sempre presente dovrebbe essere pagato di più di quello che viene pagato adesso, per esempio. No. Se uno è presente poco dovrebbe essere pagato di meno. Ma il suo stipendio lo ritiene adeguato oggi? C'è questa discussione sugli stipendi. Questi 12.000 euro netti. No, perché non sono 12.000 euro netti. Ma sì, insomma, 10.000 ecco. Perché lei il telefonino sul signor Scilipoti dell'informazione. Chi è Scilipoti? Scusa, Lorenzo non è Scilipoti dell'informazione. Per lei, radio televisiva. Per lei non dovrebbe perché essere come offensivo. Infatti per no, lei era un complimento. Per lei, un complimento. Visto che sta salvando il vostro governo. Le stavo facendo un complimento. Non mi faccia i complimenti, grazie. No, glieli faccio volentieri. Perché? Perché come Scilipoti uno se lo aspetta, sa che pensa che sia di qua e se lo trova di là. Come mi è capitato a me ieri. E poi ritorna dall'altra parte e se lo ritrova da un'altra. Agitava le manette, che faceva ci ieri? Mostrava un suo trastullo erotico. Ah, un suo trastullo erotico. L'ha già detta ieri. Era divertito. Ma non l'hanno sentita quelli sull'altra. Come Scilipoteggia sui media. Era un espediente narrativo. Vabbè, insomma, quello era un espediente narrativo. Perché lei di che narrava? Comunque sono 12. Io narravo. Sono 12.000. Un climax. Sono... Un climax. Fermatevi, che era un sono 12.000 netti. Sono 12. No, ma come no? Sono 12.000 netti. Poco male, poco male. Cruciani, lei perché fa dei no? conti. Ma lei come lei quando viaggia chi paga? Ma lei dipende, il taxi volta, qualche paga. Volta pago io, qualche volta e non paga non glielo rimborsano mai l'azienda? Qualche volta sì, dipende. Qualche volta ma è no, privato, dipende. È un'azienda privata. Poi un'azienda privata. Guardi qua del labiale. Cosa vuol dire? Privato. Cosa vuol dire? Insomma, voglio capire, cosa lei si dire? Sente di guadagnare poco o tanto, il giusto, o il giusto? Ma lei c'ha il treno anche quando smette di fare il deputato, capito? Cioè no. Lei c'ha il tesserino? Come no? Sì, come no? L'autostrada, il tesserino, ce l'ha anche dopo? Non dopo, no. Come no? Anche come dopo? No. Si informi anche dopo. Informo, lo so perfettamente, non c'è più. Non c'è più. C'era l'ovolino a suo tempo. L'ovolino, cioè gratis su tutti i treni. Sa quando c'era? Fino a quando Trenitalia non è diventata una SPA. Oh, cioè privata. Ci informeremo meglio su questo. Allora, no, non si informi meglio, si fidi. No, quando lei parla, io non mi fido mai. Quando lei parla e dà le informazioni, io mi fido alla radio. Allora le dice, cose che io so per esperienza quando lei dice di fare il deputato, non ha più i voli gratis o il treno gratis. No. Benissimo. Né voli, né treno, né autostrada gratis. Guadagna il giusto, tanto o poco. L'autostrada, la tessera autostradale scade con la scadenza della legislatura. Una volta non era così. Non lo so. Vabbè, una volta non c'era. Avete cambiato ora, però. Chiudiamo questo aspetto della busta paga. È tanto, è l'ho poco, già trovato è giusto. Così, non l'ho cambiato io. È tanto, giusto, è poco. Quant'è? Dovrebbe essere diminuita, messa a livello. Tremonti dice: mettiamo tutto a livello dell'Europa. Significa che qualcosa non va, che guadagnate qualcosa in più rispetto agli altri parlamentari in Europa. Chi gli ha detto che guadagniamo di più? Perché mettiamo a livello dell'Europa. In generale, se mettiamo a livello dei principali paesi europei, cioè dei fondatori dell'Unione Europea, di tutti, cioè anche della Slovenia. io sto dicendo dell'Ucraina, se Tremonti il dice... costo della vita andrà considerato, quindi io lo considererei rapportato ai costi medi dei principali paesi. No, non va bene? Ma più della sei fondatori. Più dunque bisogna considerare il costo della vita. È difficile considerare il costo della vita, è complicato. No, ho detto, se vogliamo prendere, prendiamo paesi che siano omogenei. Ma un deputato greco quanto dovrebbe guadagnare? Questa è una discussione che mi ha stufato. Guarda, io vivo di mio. Posso dare tutto quello che prendo in beneficenza. Quindi non lo dica due volte. Non lo dica mai due volte. Non lo faccio, perché ritengo di lavorare abbastanza. Ma voi dovete rendervi conto che è una classe politica disprezzabile questa, lo capisci? O no, dovete riguadagnare fiducia, ma non solo per quello, siete disprezzati. Perché? Non avete paura ad andare in giro. Non avete paura ad andare in giro. Invece cominciate a avere paura. Perché dovete iniziare ad avere paura. Perché ormai io non sono mai stato un anticasta, perché reputo la politica nobile. È giusto che un deputato sia pagato e anche tanto, cioè questi 10.000 euro che prendono, ma sono sputtanati ormai. Dovete avere paura ad andare in giro. Paura. Sono letteralmente stufo di questa discussione. Paura dovete avere. Perché a nessuno viene rimproverato per i rimborsi spese che prende. Nessuno viene rimproverato. Allora prendo 5.000 euro. Siete screditati. È una classe politica screditata. Vogliamo fare due discorsi diversi? È lo stesso discorso. È lo stesso. Va bene. Come a nessuno viene rimproverato. Allora cosa facciamo? Ce lo teniamo screditata a un prezzo più basso. Ma che cazzo di ragionamento è, Scilipotino? Ce li teniamo screditati a un prezzo più basso. No. Ma che ragionamenti sono? Ma dovete riguadagnare, ma cosa parlate? La dignità, ma tu la stai parola dicendo. dignità. Ma questo è un altro discorso. Ma dovete dignità. Quelli come lei devono riguadagnare la razionalità. Sì, sì. Andate lei in giro. Abbassa il prezzo per tenersela screditata. Andate allora, sono in giro. Due discorsi diversi. Andate no? In giro, andate in giro. Io fossi lei avrei paura di andare in giro. Una interpretazione. Ma non ha paura. Avrei paura. Tra un po' dovete avere paura. Posso parlare? In giro. Sì, sì. Non posso parlare. Ho paura di venire qua se non posso parlare. Sì, dica. Sono rotto le palle. Dica. Allora, sa perché io non ho paura di andare in giro? Sentiamo. E ho anche un'interpretazione di molta di questa rabbia che viene rivoltata verso di noi. Lei l'ha vista verso i consiglieri regionali? No, tra poco ci sarà forse. Perché non c'è verso i consiglieri? Perché non conosce nessuno, forse. Non sa neanche che face hanno. Perché? Un po'. Cosa fanno i consiglieri? Perché la gente non so perché sa di meno. Cosa hanno grande fare? Potere, sì. Come? Sulla sanità, ad esempio. Sanità. Distribuendo, certo. Per esempio, favori. Clientele, favori. Certo. Bravissimo, ecco. Quello che non possiamo fare i consiglieri regionali hanno più potere di voi? No. Dal punto di vista distribuzione di clientele? Hanno, lo possono fare, perché avendo trasferito noi una serie di competenze, di denaro, noi facciamo le grandi leggi e non tocchiamo un soldo, allora? Se non le grandi manovre dove non le tocchiamo, li prende il tesoro, d'accordo? Sì. Mentre il consigliere regionale può accelerare una pratica di far ottenere una pensione di validità, per dire cosa? Che molta della rabbia contro i parlamentari dovrebbe essere contro i consiglieri regionali. Perché è cambiato un sistema e non possiamo fare più clientele. Sa cosa ho detto l'altro c'è giorno? C'è qualcuno che pare che le faccia l'altro clientele, giorno mi fa finire modo. Mi fa finire, perché se volete discutere volentieri discutere. Ma c'è il traffico dopo il traffico di 800 24 00 24 00. Allora, chiudiamo questa discussione in questo modo, 800 24 00 24, con Giorgio Straquadagno, deputato del PDL, ex direttore del Predellino, che ha chiuso e forse ritornerà. Si è sospeso. Sì. Perché? Perché c'è una fase nuova del mio partito e quindi... Partito degli Onesti, no? Giusto. Una fase nuova perché siamo segretario politico. Ah, scusa. Non faccio, sempre lo Scilipotino. Si ricorda, no? Scilipotino, questo important non è male. Of being earnest. Si ricorda il grande libro, no, di Oscar Wilde, l'importanza di chiamarsi Ernesto Onesto. Scusi, però, il gioco di parole. Arrivando ad una conclusione, c'è bisogno o no di tagliare i costi della politica? Evidentemente, secondo quello che lei dice, no, non c'è nessun bisogno. C'è tutta demagogia. I costi veri della politica sono quelli delle mancate soluzioni dei problemi del paese. Dunque, quelli sono i costi che impone la politica. Una classe politica sono che affronta se risolvessi i problemi del paese non è un problema. Dunque, quanto la paghi i tagli dei parlamentari, i tagli dei parlamentari non si devono fare, secondo lei è demagogia? Io dico che si deve spendere meglio i quattrini che abbiamo. La Camera ne spreca parecchi. In che cosa? Per esempio in un ufficio inutile che costa 9.000 euro al mese, quello che mi danno e mi hanno imposto, che io non ho mai chiesto. Cioè lo stipendio dei parlamentari però è assolutamente adeguato. Cioè il suo ufficio costa 9.000 euro stipendio al mese. Distingo lo stipendio 5.000 euro dal rimborso delle complesso, spese. Facciamo il complesso. No, il complesso non è un complesso, perché io le spese le spendo. Sì, d'accordo, però quelle cose lì non bisogna toccarle. Quelle roba lì non bisogna toccarle, è giusto Possiamo così. Possiamo cambiare il modo di erogarle. D'accordo, con però più non... controlli, se uno come dire, ufficio... finge di spenderli, non li certo, spende, in nero, non va bene. In nero, se, no, qua, quello certo. Non se ne parla nemmeno. No, che certo. Si le persone il suo in ufficio nero. Costa 9.000 euro al mese. L'ufficio che la Camera mi mette a disposizione, costa 9.000 euro al mese. Io l'abbia richiesto, e che anche se io non lo uso. No, perché... 9.000 euro al mese. Sotto la presidenza Violante. Sì, ma l'affitto degli immobili, c'è tutta la questione dell'affitto degli immobili. Sotto la presidenza Violante fu fatto un contratto con una società che comprendeva nuovi immobili affittati. Ma perché non va in ufficio con un altro, lei, ad esempio? Ma con un suo collega il deputato. Il problema è che sono degli oculi che c'è lì, oh, cioè è stata fatta una truffa. Posso ma dirlo? Vabbè, però adesso non affrontiamo questo discorso, non affrontiamo questo discorso. È una cosa che è venuta fuori, se lei leggesse il giornale della testata che la ospita, c'era tutto scritto. Sì, ma lei non legge niente. No. Lei è come Scilipoti, scrive ma non legge. Ma perché lo insulta così? Come lo sta tenendo sul governo. Ha ragione, sto insultando Scilipoti paragonandolo a Parenzo. Ecco. Chiedo scusa a Scilipoti. Io fossi Scilipoti curerei straguadagno per aver rotto la parola. Scrive ma non legge. Scilipoti scrive ma non legge. L'ha dipinto come un cretino sostanzialmente. Certo. Detto alla Tremonti. Per insultare me ha dipinto Scilipoti come un cretino. Complimenti straguadagno. Comunque mi sta dicendo che il vero disastro di questo governo è Tremonti. Cioè, il crollo verticale nel consenso, la responsabilità principale di chi è? Di Tremonti? La responsabilità principale di Tremonti per quello che ha fatto, per una manovra che è esattamente opposta ai nostri programmi. Perché è fatta opposta. In prevalenza è tasse. È una manovra socialista. Sa perché non possiamo dire... Ma lasci peggio. Dovrebbe andare via? Se andasse sarebbe meglio? Sì, ma se cambiasse tutto il governo. Ho detto oggi che Berlusconi, se vuole uscire dal pantano in cui è... Deve cambiare tutto il governo. Cambiare comunque, tutto il governo. A partire da lui magari. In primis Tremonti. Anche. Beh, è quello principale, è il ministro dell'economia. È più importante. Ma è peggio di Padoaschioppa e di Prodi? Peggio di Prodi, in questo momento. È uguale. Sa perché? È come Padoaschioppa. Uguale o peggio? Come Padoaschioppa, addirittura. Peggio. No, Prodi era il capo del governo, Padoaschioppa era il suo ministro. Visco era il suo ministro. E quindi io li paragono per rango. Quindi Tremonti come Visco. È quello che mi dicono tutti gli imprenditori. A noi non interessa chi ce li porta via. Nello stesso modo. È il modo in cui ce li portano via. Cioè attraverso una tassazione. Ma Berlusconi ne è consapevole di questo? Sì, ne è consapevole, ma si sente paralizzato. Perché? E questo è il suo più grave errore, perché pensa che Tremonti, che sia vera la favola che Tremonti ci racconta, cioè che se casca lui crolla l'euro. Lui questo dice, lei non ci crede? Non si fida delirio di onnipotenza infantile. Delirio di onnipotenza infantile addirittura. Ma infantile addirittura? Beh, i deliri di onnipotenza sono infantili. Non è detto. Si figuri. Non ma è vero che senili. Qualcuno vuole usare il metodo boffo nei confronti di Tremonti? Ma cioè tutte stronzate. Tutte stronzate. Come dici, scusi? Tutte stronzate. Tutte stronzate. Se l'hai detto da solo. Se l'hai detto da solo. Vabbè, che ne so. Ci vuole, bisogna provarlo. Quando sa perché noi non possiamo dire più non abbiamo messo le mani nelle tasche degli italiani? Perché gli abbiamo portato via anche le tasche con questa manovra. Gliele porteremo via le tasche. Questo è vero. Gliele porteremo via le tasche. Per fortuna abbiamo 2 anni per correggerla. Cioè, mi auguro, perché voglio che cambi il governo? Sì. Perché siccome i primi provvedimenti sulla manovra sono a basso impatto, grazie a Dio, possiamo cambiare totalmente il profilo. Non si preoccupi, ci pensano i magistrati, stanno arrestando tutti, basta aspettare qualche giorno. Ma qui non cambiamo il governo. Qui siamo a 10 piccoli cambiamo le istituzioni, che è un'altra cosa. Bossi non parteciperà domani al Consiglio dei Ministri. Come mai? Perché secondo me l'hanno messo nel pantheon della storia della Lega. Cioè? L'hanno tumulato? Tumulato. Tumulato. Nella storia, non per ce l'hanno messo lì come succedeva con i leader dell'Unione Sovietica, che a un certo punto quando entrano in una situazione di, per carità, non dal punto di vista l'Unione Sovietica è impagliato perché è stato superato dalla vicenda stessa della Lega. Perché? Perché credo che lei ragiona ancora, fondamentale. Sì. Ragiona ancora. Bossi ragiona molto, però si è infilato in un culo di sacco tremendo. E il culo di sacco è stato quello di non aver fatto crescere nella Lega una cultura di governo adeguata, e quindi non hanno ottenuto molti dei risultati che volevano ottenere, e questo li mette in condizioni di insofferenza. E chi comanda ora? C'è aperto in questo momento sembra. Questo momento Maroni. Però lo scontro è aperto. Però l'ha pugnalato Berlusconi Maroni, Maroni ha pugnalato il governo. Ha pugnalato non il governo. Berlusconi, ha pugnalato il governo. Una cosa grave, gravissima. Cioè si è soprattutto perché sarebbe stato meglio non farlo sulla pelle di un. Cioè io preferivo. Ma si è fottuto. Cioè da Maroni solo, ha mandato in galera Papa. Maroni in sostanza ha mandato in galera Papa. Il voto della Lega è stato determinante per mandare per l'arresto di Papa. Questo lo sappiamo tutti. Messia della palismo. Dunque Maroni ha mandato in galera Papa. Lei fa dei sillogismi che a volte mi ricorda Parenzo. No, ma i silogismi non vanno bene in questa parte qui scatta la querela di Cruciani. No, perché i silogismi non vanno bene mai nel ragionamento. Ho capito, però se lei mi dice ma la Lega in famiglia vanno bene. La Lega ha contribuito, è chiaro che ha votato anche l'opposizione, però l'opposizione sapeva. Ma siccome Maroni non è che gli ha puntato una pistola alla tempia. La linea politica della Lega su abbiamo detto una cosa che è a prova di idiota. Quindi dovrebbe cioè, essere abbastanza comprensibile. È il principale killer di Papa. Si può dire o non si può dire? Anche di Bossi, se la mette così lei. Anche di Bossi? Se la mette così. Vabbè, sì. Bossi non si è pronunciato. In realtà ha preso. Non si è pronunciato ed è. Non ha partecipato ieri alla seduta parlamentare. Non parteciperà perché domani al governo. Era esplicitamente contrario. Perché è messo fuori gioco. Evidentemente. Messo fuori gioco. Commissariato, allora, via. Commissariato no. Tumulato ha detto. Tumulato. Tumulato è una cosa più grave. Nel Pantheon. Nel Pantheon. È stato messo nel Pantheon. Come Brezhnev. E dicevo, ma però perché se vogliamo ragionare. Con Feltri e Belpietro lei? Perché se l'è presa con Feltri e Belpietro? Sono stati i primi. Ha visto il titolo di oggi di Vittorio Feltri? Quello tremate le manette sono tornate. Feltri come quando non sarà mica un titolo all'indicativo. Grande vittoria. Cioè, non è che ci dice cosa cioè, è come è all'epoca contento, dell'indipendente. Contento, Feltri? No, dico che all'imperativo tremate le manette sono sì, tornate. Però era in negativo, cioè non no, no, no. Guardi no. Quella foto di cioè, Feltri. Secondo lei quello lì chi lo compra? Lo compra uno che è preoccupato le manette o uno che si compiace? Ma che c'è? Un giornale lo compra per leggerlo? No, però mi dica questa cosa. Feltri... Mediamente un lettore compra un giornale su cui trova anche un'adesione. Feltri si compiace di questa situazione. Chi sta professionalmente nell'informazione compra 5, 6, 7, esatto. non necessariamente per chi vi aderisce. Io ne compro 10. Lei ne compra 10 e ciò nonostante è così com'è, non legge. Scusate, non Feltri, so che cosa Feltri, se ne Feltri, fa. Vede le parole, ma non Belpietro, guardi le, guarda Feltri le figure. E Belpietro sono i principali insieme a Maroni. Io vorrei che tutti sapessero che noi scherziamo sempre amabilmente. No, così. Ma lo so. Sì, ma Maroni deve alla fine avere questa... paura di andare in giro. Ma, fermo. Io non ho paura di andare in giro, perché male non fare, paura non avere. Non ho mai rubato un foglio di carta intestata. Un'ultima cosa, poi non abbiamo... ho mai fatto una raccomandazione, perché dovrei abbiamo avere la pubblicità dopo. Dopo quello che lei ha detto, Maroni dovrebbe andarsene dal governo, cioè nel cambio di governo, Maroni dovrebbe andare via. Il cambio di governo va ridiscusso tutto il Maroni, dopo quello Maroni. Che ha fatto, può rimanere ministro dell'interno o no? Dopo il suo ragionamento. Se lo cambiamo tutto il governo, nessuno resta su. Ma lui è uno dei primi da cambiare? Dopo ma non Tremonti? Sono i primi, il governo. Tremonti cambia. E Maroni, via? Ma il governo cambia. Ho capito, tutto. Maroni ha pugnalato Berlusconi, lei mi sta dicendo. E allora io vorrei, siccome Maroni, deve andare via o no? Maroni cambia la linea del. Come ha detto Stefania Craxi, ha detto altri. Sì. Fa il congresso della Lega sulla pelle di Papa. Io vorrei che lo facesse apertamente il congresso della Lega. Non amo i Brutto. Perché durano un minuto. Nella Maroni come Bruto. Dovrebbe andare via o no? Subito da ministro degli interni. Subito via. Tutto il governo a casa. Tutto. Ma tranne Berlusconi. Beh, per forza è il capo del governo ed è ancora, ha ancora la legittimazione. Ma non ha paura 2008. Adesso quando esce? Non ha paura adesso quando esce? Non ma perché dovrebbe mai avere paura? Ma perché c'è un disprezzo della classe. Male non smettila. Fare, paura non avere. Siamo qui alla Zanzara 800 24 0024, mentre Stefania Craxi dice i leghisti sono dei pazzi, finiranno appesi al loro stesso cappio. E sentiamo i titoli del TG3 di questa sera, vediamo come affronta il telegiornale di Bianca Berlinguer questo clima politico, via. E adesso i titoli del TG3 di Bianca Berlinguer. Napolitano, basta con lo scontro fra magistratura e politica, intercettazioni solo se indispensabile, massimo scrupolo nelle misure cautelari. Alfano, nessuna sorpresa per lo strappo della Lega, il governo va avanti, ma intanto salta il faccia a faccia tra Berlusconi e Bossi. Il PDL contesta il voto segreto alla Camera, fini tutto regolare, polemiche fra gli schieramenti sul no tedesco, la Bindi ospite al TG3. Accordo al vertice europeo, prolungati gli aiuti per salvare la Grecia, promossa la manovra italiana, Confindustria, il paese non cresce. Penati del PD si autosospende da vicepresidente del Consiglio regionale Lombardo, indagato per corruzione dice non c'entro con le tangenti Falc. Sempre più grave la carestia in Somalia, la peggiore in quasi 20 anni, oltre 3 milioni di persone colpite dall'inizio dell'anno, morti 400 bambini. Sciopero della fame di studenti e professori dell'Accademia delle Belle Arti per la riforma universitaria e riconoscimento della laurea. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende Bene, bene. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24, sempre con Giorgio Stracquadanio, fra poco anche gli ascoltatori naturalmente per intervenire. Abbiamo meno tempo da qui alle 19.30 e allora... Come mai? Sì, rispetto a prima sto dicendo, rispetto a prima. No, ho capito. Definizione del PM Woodcock da parte del signor Stracquadanio. Come lo definisce Woodcock? Un improvvisatore. Un improvvisatore? Pericoloso? Sì. Beh, con il potere che ha in mano sì. Non si improvvisa quando si ha quel potere lì. È un improvvisatore in cerca di facile notorietà sulla pelle degli altri. Ma dunque la Lega ha consegnato Papa nelle mani di un improvvisatore, di Woodcock? Sì. Ma per forza. Sembra quasi serio quando dice, sembra una trasmissione comica. Io metterei sotto perché tu ti fidi di John Henry di, perché Woodcock? Ma io mi voglio il suo curriculum, ho criticato più volte la magistratura, lo dice. Ma come il suo curriculum di parlamentare, cosa dice? Ma adesso voglio dire, se vuole ragioniamo seriamente, non è che c'è solo Woodcock, c'è anche un GIP che decide e dispone un arresto, c'è anche c'è anche un altro pubblico ministero che era in conflitto, il sistema diretto e aperto con le cose Papa. Sono due: o siamo di fronte a un golpe per cui va bene, basta, vediamo in che senso. Un golpe di un magistrato, un golpe strisciante, non di uno golpe strisciante, sì, vi rendete conto, uno scontro di potere. Voi non vi state più rendendo conto di quello che dite. No, lei non si create rende conto di quello che si vede. È una classe politica disprezzabile, questa finito, vi troverete l'assedio. Questo può essere anche disprezzabile perché non produce, perché non perché risultati, perché non è credibile, non ha la schiena dritta. Ma cosa c'entra questo con le inchieste? Ma cosa c'entra con le inchieste dei magistrati? Perché mai, non c'è mai stato un momento della storia della Repubblica con un numero così elevato di inchieste, con deputati accusati di cose gravissime. Non ve ne rendete conto, siete talmente chiusi, obnubilati dentro il palazzo con gli arancini, la buvetta 0,90, il costo di un arancino, siete là dentro talmente obnubilati da quel mondo che non vi rendete conto della rabbia, di quello che c'è fuori, questa Annarella. No, ma a me dispiace, a me dispiace perché poi vince Grillo, e a me sta sui coglioni Beppe Grillo, è questo che mi dispiace. Questa Annarella un po' ripulita, sì, vuole replicare non vi rendete conto di quello che sta avvenendo. Parenzo è come Annarella ripulita. Sì, poi quando siete come in Grecia, un po' più barocca, quando c'è la Grecia, quando c'è la gente in piazza, quando ci sono gli indignati. Potrebbe dire a Parenzo che se anche imita Grillo non diventa così ricco. Ma guardi che a me Grillo sta sui coglioni, non so se hai capito. Perché è più ricco di lei? Perché è antipolitico. No, perché io sono per il mercato, perché è stato bravo lui è stato bravo invece. Vabbè. Non vi rendete conto dell'indignazione che c'è. Comunque andiamo avanti, dai, prego. Quindi Woodcock che è un ubriaco, no? Andiamo avanti. È un ubriaco? Che c'entra ubriaco? Dica. Ubriaco. In che senso? È ubriaco Woodcock? Beve? È ubriaco Woodcock? Non sia così. Sì o no? Risponde. È un pazzo. So che è difficile rispondere in alcuni casi. Siccome mi devo rendere conto, mi rendo conto. Di cosa? Di cosa? Taccio. Di una follia che c'è in corso. Cioè sono stanco. Guardi, le dico, sto andando via perché sono stanco di stare in mezzo a un luogo, un manicomio, dove c'è un pazzo. Ma che è pazzo, scusi? Lei, perché non vuole ragionare. Ragioni, prego. Lei va in escandescenza. Ma no, mi lancia accuse nei miei confronti. No, chi sei? Praticamente... Dai, non vi rendete conto, non vi rendete... voi gli arancini, ma gli arancini li mangerà lei alla buvetta, io non lo prendo, mi fa schifo l'arancino, quindi mi fa schifo la roba fritta e io mangio in modo molto molto più buono pagando di tasca mia dei buoni ristoranti. Quindi lei non mangia mai la buvetta. Bevendo. No, diciamo qualche volta vado a casa di amici dove altri amici mi servono addirittura in tavola. Diciamo qualcosa sull'UDC. Che ha se sempre, lo ricorda Parenzo quando votato... mi ha servito in tavola a casa di Crespi. No, perché le raccontiamo tutto. Ah, che è successo? Che ha fatto Parenzo? No, perché Parenzo mi urla dietro quando vengo in trasmissione. Beh, ma mi frequenta fuori. No, ma tanto l'ho vista fuori. L'ho vista fuori. No, beh, mi frequenta fuori a cena a casa di comuni amici. Certo, che sono stati in galera. E che quando la sentono parlare così le saltano al collo e giustamente gli staccano. Io l'ho vista fuori a una cena, ma ciò non c'entra che le dica in faccia quello che penso. Cioè, che lei in tavola quella cena. Era chiaramente un gioco. Io vestito da cameriere. Il ragionamento è vero. Non vi rendete conto come classe politica che state sfiorando il disprezzo. E io glielo dico, come glielo dico sempre. È così, è evidente. Ma se io non posso parlare, non posso neanche rivalutare il mio prezzo. È chiaro? E io penso che ci siano due problemi distinti che lei mette insieme. Perché siccome non vuole andare un po' più in là del suo naso, lei si adegua alla, come dire, vulgata corrente, per cui siamo tutti ladri e farabutti. Ma non ho detto e proprio perché siamo ladri e farabutti, affamiamo il paese. E questa è una fesseria. Mettiamo in onda Dussin. Se volevo ragionare un po' di più, Luciano Dussin della Lega, il quale dice una cosa molto forte: manette e pulizia per le mele marce. Questa è la Lega di oggi, quella che sembra prevalere. Lei anche all'epoca era uno di quelli che stava dalla parte di chi chiedeva le manette e pulizia. Ma ancora oggi, cioè qua ancora c'è oggi gente che non ha capito la lezione e continua a sbagliare, sono mele marce che il sistema, se vuole, può arginare. Vabbè, Gasparri, tra 100 anni i libri parleranno di Berlusconi come un leader eccezionale. Anche prima. Come anche prima? Bene. Vogliamo aspettare 100 anni? Già l'hanno scritto molti libri. Gasparri. Non c'è bisogno di aspettare 100 anni. Gasparri, voglio dire, o ha dei lunghi auspici sulla sua vita, o forse, come dire, non è bravo a far previsioni. Sentiamolo. Che Silvio Berlusconi sia una personalità di rilievo eccezionale è un fatto che tra 100 anni sarà confermato quando ci saranno studi, libri e analisi sul suo lavoro. Quindi che sia una leadership molto marcata dalla forte personalità, dalla storia personale, è indubbio. Vabbè, l'atteggiamento dei radicali ieri, so che non è un argomento che scuote le coscienze, che fa discutere nei bar, però è abbastanza curioso. Rita Bernardini ieri alla Camera ha detto, primo, che ci sono metà dei carcerati che vengono messi in galera con la carcerazione preventiva che sono innocenti, poi che bisogna porre mano alla legge sulla carcerazione preventiva, poi che le carceri scoppiano, e poi ha detto di votare sì all'arresto di Papa. In nome anche di quelle decine di migliaia di persone che sono lì in carcere, in carcerazione preventiva, e che non possono andare a piede libero al processo, riteniamo di dover votare sì alla richiesta della giunta per l'autorizzazione a procedere. Lei è stato radicale. Infatti non lo sono più. Per questo, anche per questo. Io sono rimasto quello che era. Quelli che candidarono Tony Negri per tirarlo fuori dal carcere. Non il signor Rossi. Lei è ancora orgoglioso di aver candidato. Lei è ancora orgoglioso. L'ho votato. È ancora orgoglioso. L'ho votato e ho fatto bene. Poi ho fatto bene a votare. Negri, no? Non era nei patti delle elezioni di Padova. Quando l'ho votato ho fatto bene. Cioè lei è ancora orgoglioso di aver candidato. Ma perché quello era un teorema, era il teorema Calogero. Lei è ancora orgoglioso di aver candidato. Teorema sul 7 aprile, no? Mi perdoni. Voi l'avete candidato perché ma voi l'avete candidato perché era un teorema. Perché Calogero non va bene adesso? Lei le piacciono tanto i magistrati, va bene. Ma io oggi mi piacciono i magistrati. Ho ripetuto la ragione per la quale fu candidato. Mi vuole, cioè secondo quella vulgata. Va bene. Scusi, intervisti Valenzo. Cosa mi avete chiamato qui a fare? Ma io non vengo più. No, beh, ho capito adesso. Cosa vengo qui a fare? Abbiamo parlato anche prima, non è che non abbiamo parlato. Deve parlare al posto mio. Lasciamo perdere Tony Negri. Papa si è dichiarato prigioniero politico ieri, non un po' eccessivo? Prigioniero della politica, forse sì. Come prigioniero della politica? Un voto politico l'ho messo fuori gioco. No, lui ha detto prigioniero politico, che intendeva? Chissà. Cioè, siccome i prigionieri politici si dichiarano i brigatisti, come lei sa, o comunque no, terroristi, non penso che avesse in mente nulla di del genere, ma lo immagina Papa. E il voto dell'UDC come lo giudica? Sempre garantisti, eccetera. Codardo. Grazie. Perché loro dovevano, evidentemente hanno paura di andare per strada. Ma sa perché? Ah, allora come hanno paura? Chi ha paura di andare per strada? Ma vede, c'è un problema. Ieri ho fatto una piccola battuta. Se mi fa parlare. No, ma perché? Ma non è possibile essere continuamente interrotti. Lei deve smetterla di pensare di essere un PM che mi interroga. Perché a me non mi interroga nessuno. Su che c'è la pubblicità. Ieri ho fatto un piccolo apologo. Era morto Remo Gaspari, la Camera l'ho commemorato per un minuto. Sì. E allora ho detto: è morto Remo Gaspari, ieri la Camera l'ha commemorato per un minuto, la scorsa settimana gli ha dedicato un pezzo di manovra. Perché quelli sono i danni veri che sono stati fatti all'Italia. Il debito pubblico gigantesco. E la Camera ha dedicato un pezzo di manovra. Invece ieri se tutti celebravano la grandezza di Remo Gaspari. E perdonatemi. Ipocrisia, le dici? Ipocrisia. Ipocrisia, li celebriamo da morti e non ci ricordiamo di come erano da vivi. E i problemi veri non sono se... come dire, se uno viene pagato 5.000, 7.000, 8.000 euro, ma se uno ha devastato il bilancio dello Stato per assumere decine di migliaia di gente alle poste, e allora della casta si facevano solo applausi, viva quelli che ci assumono. Quello e sono io, quelli che oggi detto, ci odiano. Io ieri ho detto che la casta quelli sono gli italiani. Io ho detto che la casta sono tutti gli quelli italiani. Che siccome non li possiamo più assumere, allora noi siamo tutti ladri. Beh, qualche potere quante parlamentare ce l'hanno ancora. Quante raccomandazioni riceve lei al giorno? Richieste? Quante raccomandazioni? Molto più che quelle di arresto alla Camera. Cioè un numero? Una decina. 10 al giorno? Sì, certo. Scritte, prendimi mail, mio figlio qui, la... Le vorrei se indicare questo. Lei non fa nulla, non fa mai nulla. Cosa devo fare? Altri lo fanno, però. Altri lo faranno. Non ci riescono neanche quelli che vogliono. Se anche volessi... qualcuno ci se riesce. Se anche volessi... No, sa perché? Perché ormai... Il vero potere, lei dice... È concentrato in poche mani. E quindi tutti gli altri, come dire, ballano la rumba. Pubblicità, grazie a Giorgio Stacquadani, 800 24 00 24, ascoltatori tra poco. Tu sei come una piccola zanzara che l'estate mi tortura, mi rende isterico. Tu sei come una piccola. Siamo qui da Zanzara, 800 24 00 24. Dove andiamo? Rosanna da Roma, buonasera. Buonasera. Dica. Io come elettrice di centrodestra volevo dire all'onorevole che ascoltarlo che non c'è più meno male che non c'è più, perché è di un fastidioso. Perché meno male? Io che amo questa trasmissione, male che la sta ascoltando, la sta ascoltando o in macchina o dietro il vetro qui, perché è fastidioso? Ma va benissimo, anzi glielo vorrei proprio dire a quattro occhi se possibile, perché a quattro occhi le do il cellulare 335 no fermo ah no scusa il cellulare in diretta. Beh, adesso non posso scrivere, però il punto è questo, che gli elettori è fastidioso di centrodestra... in che senso? È abituato anche a critiche peggiori, credo, Stracquadani, È un grande lottatore, ma il modo in cui gestisce il colloquio e in cui si con cui si pone verso gli altri. E invece Parenzo veramente... com'è stato? Gentile? Che siete Parenzo? Parenzo è, Parenzo è sempre così. Cioè, è così e basta. Cioè, ma che dovrebbe è... fare? Non dovrebbe rispondere? Non ho capito. Perché lei dice fastidioso? È fastidioso. È una persona che ti viene voglia di spegnere la radio. Soprattutto di non votare più non centrodestra. Vabbè, questo non lo so, questo lo dice lei, insomma, addirittura spegne la radio, no, perché se lei ci sta chiamando significa che è rimasta alla radio, Un'altra cosa, per piacere, potrebbe dire all'onorevole di riascoltare la trasmissione, l'intervista che lui ha dato, e di contare quante volte ha detto parolacce in diretta. Ma adesso, guardi, parolacce, non mi sembra questo il problema principale, non credo abbia detto parolacce. No, è un problema, perché se io fossi stata in auto con i miei figli, mi vergogno di essere rappresentata da gente auto, del genere. Ma che parolacce ha detto? Ha detto stronzata, delle parolacce. Una volta stronzata ha detto, mi sembra che sia stato ampiamente sdoganato. No, la riascolti, così poi le può contare le parolacce adesso, che ha detto. Conterò le parolacce, va bene, grazie. Ma non Rosanna. Lei, Stracquadani le deve contare. Sì, ma le conto prima io. Secondo poi... me questa signora non ha mai votato centrodestra, comunque non importa. Grazie. Massimo da Modena, buonasera signor Massimo, dica. Sì, buonasera. Io volevo dire, beh, innanzitutto, io sono un elettore anch'io di centrodestra, iscritto peraltro al partito. Iscritto a che cosa? Prima a Forza Italia e poi al Polo della Libertà. Sì. Qui a Modena siamo beati. Ma esiste il tesseramento, c'è stato il tesseramento del PDL? Ma a me non ci sono le tessere del PDL? All'inizio, scusi. All'inizio c'è Forza Italia, il PDL non ci sono le tessere? Ma comunque, allora... Qui a Modena stiamo in un enclave. A Modena siamo in un enclave di chi? E fagli andare via la linea. Vabbè. Sono talmente in un enclave che... Mi sente o no? Certo che la sento. Dica. E allora dicevo, comunque, l'onorevole per me è uno... I romani dicevano senza baculus, che la traduzione è imbecille. Mi assumo la responsabilità di dirlo. Addirittura. Le do anche il mio nome e cognome, se lei vuole. No, ma non c'è bisogno, non si preoccupi. Ecco. Perché quel signore lì non sa neanche... Che cosa parla? D'altronde abbiamo un partito come ma su che cosa? Su che cosa? Su quale argomento? Allora, sull'argomento che ha detto dei benefici degli onorevoli. Ma su che cosa? Sui viaggi? Sui viaggi? Sui viaggi. Io ho viaggiato 2 anni fa con un ex onorevole di forza di Rifondazione Comunista, che non è stata più rappresentata, che tranquillamente in prima classe di fianco a me tra Modena e Roma ha presentato la tessera e ha viaggiato gratis questo signore. Vabbè, dopo avergli rotto il tipo per 3 ore. Ma cosa c'entra? Lei prende spunto da una cosa che le è accaduta con un ex parlamentare di Rifondazione Comunista. Che però aveva ancora il beneficio di viaggiare, per cui l'onorevole Stracquadagno, che ha questo cognome onomatopeico, per favore, cioè fa veramente ridere. D'altronde un partito... Guardi, io siccome conosco bene Stracquadagno, certo. No, che succede adesso qua? Mi fate replicare. No, che vuole che adesso mi fate ma cosa fa? Ma che cosa fa? Entra dentro. Ma cosa fa? Ma è una cosa ma pazzesca. Cosa fa? È una cosa pazzesca. Per un'occupazione. Ma è un'occupazione. Ma non è il 68. Non è il Teatro Valle. Non è il Teatro Valle questo qui. Musica della zanzara, musica della zanzara. C'è anche musica. Musica della zanzara, musica della zanzara. La calma qui, l'onorevole Stracquadagno stava uscendo, si è fermato ad ascoltare l'intervento prima dell'ascoltatrice, adesso dell'ascoltatore da Modena, e ha fatto irruzione sì, in questo studio come fossimo una siccome nel 68 esatto. Che lei prima non è stato, innanzitutto non è stato autorizzato, questo glielo devo dire, noi ci conosciamo eccetera, che però si entra, non si entra bussato, quando non lei, ho non è bussato, a casa, non lei non è a casa sua, chiamato. Lo sa che non è a casa sua, lo so, beh, lei, beh, ho capito, l'abbiamo, lei, l'abbiamo salutata prima, l'abbiamo salutata e lei è entrato, ma sa quante volte succede, modo energico diritto di replica, non è energico, lei non ha chiesto, è entrato, era il modo di chiederlo senza che gli sia stato chiesto nulla, ma infatti lo so che non mi è un modo di chiedere adesso. Lei ha fatto irruzione, lei è ho 68 fatto di questo studio, io le chiedo adesso dopo che ho fatto l'irruzione chiede, mi fa rispondere a questo signore, chiedo, mi scusi di essere entrato senza permesso, senza autorizzazione, prima questa cosa prima. Non si può essere, chiedere scusa, non dovrebbe essere tanto molto difficile, se me lo fate fare sì. No, e lei dice lei chiede, mi scusi di essere entrato, grazie per avermi fatto sedere nonostante io sia entrato in modo irruento e senza permesso, scusa, e di cosa di cui mi scuso, oh! Per la miseria, ma non è grave, ma quanto è difficile, ma non è difficile farmi parlare, scusi un attimo, se il presidente, il capo del governo inglese, il signor Cameron, non so dire, il signor Cameron è andato davanti a una commissione d'inchiesta, le ho detto e grazie, ha chiesto scusa, scusi, lo può dire anche lei, tanto non ho penso di avere ma non avevo un guadagno come Cameron, non avevo un portavoce che vabbè, usava le intercettazioni legali, cioè c'è un po' di proporzione, certo, appunto, cioè, infatti lei non è davanti alla commissione d'inchiesta, è una trasmissione radiofonica, infatti ho detto grazie di avermi fatto risalire al microfono nonostante che io abbia fatto un'irruzione di cui chiedo scusa. Benissimo, perfetto. Oh, la replica. Va bene, però se non... Massimo, che cosa ha fatto lei? Non ho capito, che cosa ha visto? No, scusi, adesso cerchiamo di entrare in argomento. Signor Massimo, cosa ha visto? In che senso, che cosa ho visto? No, che cosa le è successo? Nel treno era con un ex parlamentare? Nel treno ero con un ex parlamentare, Claudio di nome, il cognome non lo facciamo. Vabbè, ok. Di Reggio, quanti anni fa? Quanti anni fa? Nel 2009, nel tratto Modena-Roma, ha tirato fuori la sua tessera e non ha pagato il biglietto, oltre ad avermi parlato per tre allora, ore. Perché, allora, cerchiamo di spiegare. Non prima, l'onorevole Stracquadagno, ma a me non me ne frega niente di questo argomento, tra l'altro. Ha detto che non esiste più... L'ovulo, come si chiama? Esatto. L'ovolino. Non il privilegio, più. Chiamiamolo così, degli ex operari di viaggiare anche dopo, gratis. Non forse, c'è più. Mi scusi, dottor Cruciani, ma forse quello che ho detto io è semplicemente la capoglia dello spillo, ma poi la punta dell'iceberg. Perché poi dopo io l'ho già detto in una seduta del partito. Ma lei mi ha accusato di aver detto una bugia. Scusi, no, un attimo. No, le bugie le dico a lei. Come no? Lei mi ha accusato di aver detto una bugia. Abbiamo un signor Denis Verdini che si è inventato una banca. Che se l'avessi fatto io, ma questo è un altro argomento. Ma che c'è adesso, Massimo? Scusi, Massimo. Ma Massimo, questo è un altro discorso che riguarda un'altra inchiesta, un'altra situazione. Lei ha detto una cosa, non è vero quello che ha detto Stracquadagno prima, perché i parlamentari hanno ancora il privilegio, chiamiamolo così, di viaggiare gratis anche quando non sono più parlamentari. Stracquadagno ha detto no, questa cosa è finita non so così. Quanti anni fa, da quanti anni è finita questa roba? Io non ce l'ho mai avuto e sono stato nel 2006 eletto al Senato, poi sono stato per 15 giorni non eletto perché ero il primo dei non vabbè, eletti, comunque non c'è più, dopo non, so e non ce l'ho mai avuto, non lo so da quando non c'è, controlleremo, so che non c'è. Massimo, la ringrazio, grazie, non gratis dopo grazie. Gli ex parlamentari non viaggiano più gratis. Gratis, benissimo, grazie. Grazie mille. Allora 800 24 00 24, Simone da Roma, buonasera. Sì, buonasera, volevo fare un intervento sperando di non essere inopportuno. Io sono un militare di carriera. Per Costituzione, se non vado errato, noi siamo obbligati a non prestare altro servizio, comunque fare attività extra lavorativa. Mi domandavo se questa cosa qua potesse essere anche applicata ai politici che ci rappresentano. In che senso? Scusi, mi spieghi meglio. Nel senso faccio un episodio che qualche tempo fa... Cioè lei dice, sono un dipendente pubblico, lavora per la difesa e però non può svolgere due incarichi in contemporanea, mentre lei dice i parlamentari possono svolgere il loro mestiere di avvocato, eccetera, eccetera. Preciso, è questa cosa qua. che facevo presente, anche perché effettivamente... oggi il Panorama, tra l'altro, settimanale su cui scrivo, lo dico per non poi essere accusato di conflitti di interessi, non è un reato però, non è un reato scrivere su Panorama, non c'è dubbio, pubblica una, come sa l'onorevole Buttiglione, che ringrazio di essere qui, buonasera, buonasera Rocco Buttiglione, professore, buonasera, deputato dell'UDC, vicepresidente della Camera. Si vergogna, no? Di essere vicepresidente della Camera? No, siccome c'è questo clima, no? C'è questo clima montante. No, per me no, ma c'è questo clima montante di antipolitica. No. È una cosa passeggera, secondo lei? A ondate va questa... No, io mi auguro che sia una cosa passeggera. Vedremo. Lei ha detto addirittura c'è pericolo del ritorno del fascismo, ho letto da qualche parte. Perché? Sì. Beh, io ho studiato, quando facevo un altro mestiere di professore, ho studiato la cultura dell'Italia negli anni dopo il 1900. Sì. Era una cultura che era profondamente antiparlamentare, era una cultura antidemocratica, c'era l'idea che questo Parlamento non serve a niente, fanno solo chiacchiere, ci vuole un uomo forte il quale decida lui le cose che gli sono da fare, gli italiani devono imparare a obbedire in modo che quelli sono più efficienti e il Parlamento non serve a niente. Ma c'è questo clima poi adesso? Poi sono anche corrotti questi parlamentari, poi hanno troppi privilegi, sembra di leggere i giornali di oggi. Addirittura. E da quel clima rinascono poi sia il fascismo che il comunismo. Ma di chi è la colpa, motivo, però, la colpa di chi è secondo lei? Di questo clima? Dei giornali? Dei politici che magari sono... Di una classe dirigente un po' screditata? Le colpe ce le hanno tutti. La prima colpa è della politica, che non è capace di risolvere i problemi della gente. Oh. Se la politica fosse efficiente, la gente non direbbe, non ce l'avrebbe tanto con i politici. Mm. I politici guadagnano troppo poco, non lo so. Quanto guadagnano secondo lei, giusto? La mia busta paga sono 4.780 euro. Più, questo, però, questa più è l'indennità, quella è l'indennità di base. E poi c'è tutto il resto. Prima rispondo a questa domanda, poi vediamo alle indennità. Allora, la gente pensa che i politici non fanno un lavoro che vale 5.000 euro al mese perché non risolvono i problemi, se lo facessero direbbero va bene così. Però lo stipendio non è quello, lo stipendio è quello, scommette. No, sono 11.000-12.000 netti. Poi ci il sono professor Buttiglione dà la mano a Cruciani, scommessa in diretta. Sì, ma l'indennità la conosco, ma la conosco bene l'indennità dei parlamentari. Mi dà la parola? Meglio di lei, forse no, perché c'è. Perché... Mi dà la parola? Certo, scommetti un euro. Allora, un parlamentare il quale paghi anche la pensione di reversibilità per la moglie prende 4.700-4.800 euro al mese di stipendio, l'indennità base. Poi c'è i rimborsi per la segreteria. Momento, io lo sto dicendo io. Allora, poi prende 3.500 euro per stare a Roma la diaria, famosa da diaria. 12 a 18 giorni al mese. Lei è di Roma, quindi sta a Roma. No, perché se tu... la prendi anche se stai a Roma, no? La diaria. I deputati di Roma... Io non sono un deputato di Roma, io sono deputato delle Puglie. Sì, però vivo a Roma. A Roma, però devo andare nelle Puglie perché se tu non ti fai vedere nel tuo collegio, poi non ma ti... Ma quale collegio? Più. Ma ormai siete tutti nominati, professore. Quale collegio? Siete nominati, professore. Può fare, lei magari ci andrà, ma può fare a meno di andarci volendo, no? No. Se fai a meno di andarci ti calano i voti. A te e anche al tuo partito. Devi andare e allora hai un certo numero di metà del mese devi stare fuori casa. Il collegio non è molto curato adesso, da 2006 in poi non è che ci sia grande cura del collegio elettorale. Quelli che non curano i collegi perdono perdono i voti. Metà del mese fuori casa costa 3.500 euro, costa di meno, costa di più, parliamone. Insomma, a lei quanto rimane? Di 11.000 a 12.000 netti compreso poi, tutto quanto... non abbiamo finito. Poi ci sono, adesso non so quanto, a noi arrivano 2.690 euro, mai di più perché una parte li lasciamo al partito, 2.690 euro per pagare convegni, collaboratori, tutte le spese inerenti all'attività politica. Sì. Uno che fa attività politica vera rimane per la sua famiglia con 4.700-4.800 euro al mese. Sono troppi? Non lo so. C'è uno che fa attività politica vera, lei dice tutto il resto al di là dell'indennità lo spende per fare attività politica. Beh, forse. Oppure per risiedere a Roma. A lei in tasca, per esempio, al mese, quanto rimane? Quanto mette da parte? Questo non glielo so dire. E che ne so, 1.000 euro? Almeno 6.000 euro. A mutui in corso, così, trasparenza totale, a mutui. Questo non lo so. Poi il mio caso... No, lo saprà, se c'è mutuo lo sa. Io lo so, ce l'ho trovato in mano il mutuo. Non so quanto metto da parte. Anche perché... Io so che ho il mutuo, 30 anni, quindi adesso... Anch'io ho il mutuo. Adesso che io sia un trichè, se lo trovo, io però ho anche... Draghi adesso. Io però sono anche uno che ha avuto un altro mestiere prima, in 5 ho guadagnato anche un po' di soldi. Il professore universitario. Certo. Ma i cumuli della pensione, lei è d'accordo o no? Per esempio sul vitalizio, che viene cumulato ad altre pensioni. Non bisognerebbe eliminare questa storia del cumulo delle pensioni? Ma sarebbe meglio fare così, che come tutti si versano alla tua mutua i contributi. Anche cambiare metodo, passare al metodo quello... Come per tutti i comandici da noi, bisognerebbe farlo. Perché, perché finora non è stato fatto nulla da questo punto di vista? Chiacchiere sui vitalizi, per esempio, è una cosa che fa indignare un sacco di gente, secondo me giustamente, più che lo stipendio. Sui vitalizi, guardi... Perché? Perché non avete fatto niente fino adesso? Perché non glielo so dire. Lei ha 5 legislature, cioè non è un novizio. Sì, ma per la verità il problema non ha mai attirato in modo particolare la mia attenzione prima che ci fossero tutte queste vicende. Perché non ha attirato la sua attenzione? Perché ci sono anche altre cose più importanti a cui pensare. Beh, cose più importanti del vitalizio? Direi proprio di sì. Ci sarebbe un paese da governare. Se noi governassimo bene questo paese, la gente non si preoccuperebbe tanto di queste cose. Detto questo... Ah, quindi dice che... Cioè, questo è interessante. Cioè, dice, se avessimo governato bene questo paese, non ci verrebbero l'ombra le scatole sullo stipendio. Cumulo dei vitalizi, il cumulo dei vitalizi è una cosa che deve cambiare. E gliel'ho detto. Ma stiamo studiando di cambiarla. Studiare? Ormai Nulla da studiare. Ma ci sono proposte da anni depositate da anni. Bisogna fare una proposta di legge, perché è regolato per legge, e una proposta di legge che ne abbiamo parlato oggi in ufficio di presidenza, che sostanzialmente la ipotesi, non c'è una decisione, ma che è più probabile, è paghiamo all'INPS o alla mutua di appartenenza, alla mutua dei professori universitari, degli ambasciatori, a seconda da dove uno, degli avvocati a seconda da dove uno viene, gli paghiamo i contributi. Ma non sarebbe meglio eliminarlo questo vitalizio dei parlamentari? Perché i parlamentari devono avere un vitalizio? Perché tutti devono avere una pensione. Aboliamo il vitalizio. Ma come? Già ce l'hanno. La gente normale se la paga. Già ce l'hanno, se le pagano le pensioni o viene pagato dal proprio lavoro. Certo che dopo 15 anni di Parlamento è giusto, ma dopo una legislatura è giusto o no che uno debba avere la pensione? Quello che le sto dicendo io è che bisognerebbe che si pagasse la pensione come tutti, versi i contributi come li versano tutti quanti, perché per il vitalizio si versano i contributi. Invece di avere... E i cumuli bisogna eliminare, il cumulo delle pensioni. Il cumulo, pensione da parlamentare, poi c'è la pensione... Sanguisughe, Mario Giordano, Il cumulo delle pensioni, devi applicare al cumulo delle pensioni dei parlamentari le stesse regole che applica al cumulo delle pensioni dei non parlamentari. Non devi fare delle differenze. Abbiamo 30 secondi. I non parlamentari possono cumulare le pensioni? Ho l'impressione di sì. Bene, e allora anche i parlamentari. Sì. Cioè è giusto che possano cumulare anche i parlamentari le pensioni? Applichiamo la stessa regola che vale per tutti. Non so qual è la regola. Ma oggi non è così. Oggi, ad esempio, un italiano non può andare in pensione dopo un anno di lavoro, no? No, questo è un altro discorso. Questo è il punto. Prima lui parlava di cumulo. Sì. Per il cumulo applichiamo la stessa regola. Sono che vale due per principi. Tutti. E ho l'impressione che il cumulo ci sia per tutti. Invece su... Sulla una legislatura, due legislature? No, una legislatura, due legislature è un altro discorso. Mi faccio parlare, che glielo spiego. 30 allora. Secondi, torniamo subito. 30 secondi. Allora, vediamo il suo caso, per esempio, onorevole Buttiglione. Lei è professore universitario. Probabilmente quando andrà in pensione prenderà i soldi dalla pensione come professore universitario e le prenderà un'altra pensione come da deputato. È giusto o non è giusto, secondo lei? Si è pagato i contributi per tutti? No, ma certo, ha pagato i contributi, quello che è normale che li ha pagati. Allora, le faccio una domanda. Dobbiamo applicare una regola diversa ai deputati e all'altra gente o la stessa regola a tutti? No, ma è diversa la cosa, perché se lei la prende come professore all'università non si capisce perché la debba prendere anche come parlamentare la pensione, il vitalizio. Glielo spiego subito, perché quando tu vai a fare il parlamentare interrompi la tua attività come professore universitario, interrompi anche i contributi, allora da una parte la pensione la devi prendere, che lo Stato mi paghi i contributi, anzi io che già pago i contributi per la pensione come parlamentare, sì. Invece di versarli per la pensione parlamentare, li verso alla mia cassa per professore universitario e alla fine mi daranno una pensione. Cioè, lei dice è come un avvocato. Comunque, un avvocato fino adesso lei mi ha detto di questo argomento non se n'è mai occupato. Invece, ultimamente me ne sono occupato. Abbiamo fatto proprio oggi. Solo ultimamente se ne è occupato. Sì. Prima... Per forza, sta montando la rabbia. Sta montando la rabbia adesso e ce ne occupiamo adesso. Perché prima forse lavoravamo un po' meglio e la gente non si preoccupava. Beh, insomma, meglio. Invece, bisogna vedere da quando. Invece c'è un'altra cosa che è giusta, che le diceva prima. Si può dare una pensione dopo 5 anni? No, i contributi si versano alla cassa. Di appartenenza, lei dice. Di appartenenza. Come gli altri prendono la pensione dopo 40 anni di contributi o al compimento del 65esimo anno di età, così anche i parlamentari prendono la pensione dopo 40 anni di contributi o al compimento del 65esimo anno di età. Insomma, applichiamo le stesse regole ai parlamentari. Fino adesso non si è fatto. Adesso lo facciamo. Ci sarà un minimo di responsabilità in questo qua, di non avere avuto il coraggio di agire prima, o sbaglio? Certamente ci sarà un quid di responsabilità. Lei da 5 legislature, adesso, mi sembra. La quinta. Non lo so. La quinta. Come non lo sa? Quinta, come, sì, non lo sa. Come lo sa? Saranno fortissimo, sono avuto io. Saranno non anche... sa se ha mutui sulle case. No. So che no, quello lo sa. C'ha mutuo. C'ha una casa o due. No, io perché sai, la roba del mutuo, io sono mutuo trentennale. Il mutuo lo sapeva. Il mutuo lo sapeva. Il mutuo lo sapeva. Non aveva capito. Non aveva capito la domanda. Non avevo capito quello che voleva dire. Quello che io dico, applichiamo le regole uguali a tutti. Lo so, è quello il problema, che fino adesso non hanno fatto. Mentre però. Quello che invece è sbagliato è che si possa avere la pensione dopo soli 5 anni. Questo è chiaramente una cosa inaccettabile. Va bene, sentiamo qualche ascoltatore, poi torniamo su altri argomenti con Rocco Buttiglione, soprattutto il fatto che... Professor Rocco Buttiglione. Che dopo una vita da garantista, filosofo. Dopo una vita da garantista in cui i diritti... della ieri l'UDC ha votato per l'arresto di Papa, che Berlusconi si è molto arrabbiato con voi. Ha detto, non me l'aspettavo da Casini, una roba pazzesca è successa. Lei come ha votato per l'arresto di Papa? Sì, certo. Ha contribuito a mandare in galera una persona. Non si sente il peso di questa responsabilità? No, assolutamente. No? No. È addirittura sollevato. Addirittura sollevato. Posso spiegare? Sì, sì. Certo. Allora, io come parlamentare ho un dovere. Ma fino adesso tutte le avrei spinte, pure lei, in Senato, pure lei, sempre le spinte. Tutte sempre le richieste, no, di era no. Tempo di cambiare. Ogni tanto bisogna cambiare, o non le pare. Allora, io come parlamentare... Qual è la povero Papa, c'è andato di mezzo però. Poi io, un Papa, tra l'altro, uno si chiama Papa. Io come professore. Io come parlamentare ho un dovere. Lei ha mandato un Papa in galera, se ne rende conto o no, professor Buttiglione? Papa o non Papa, io come parlamentare ho un dovere. Questo dovere è di leggermi le carte e di dire, esiste una ragionevole presunzione che la magistratura sta facendo un'operazione politica di fumus persecuzioni, c'è un fumus persecuzioni oppure no? Non si nasconde dietro questa roba qua, perché non è così, non invece è così. Invece esattamente non avete votato sulla base invece di questo è esattamente ma assolutamente così. No, un voto politico su. Mi faccia finire, è anche un voto politico, poi le spiegherò perché è un voto politico, ma prima mi faccia dire la prima cosa che è la più importante. Le pare possibile che tutti i mariuoli che stanno in Parlamento sono sempre oggetto di persecuzione politica? Su 10 che arrivano, era tempo di cambiare. Su 10 che arrivano, era tempo di cambiare. Io perché? Ho sempre detto che era tempo di cambiare. Su 10 che arrivano, ce ne sarà uno che è un perseguitato politico, 2, 3, 4, 5, tutti e 10. Non ho capito, ma fino adesso per voi è stato sempre così. E però. Proprio per questo era tempo di cambiare, perché altrimenti... Ma non perché Papa, perché era il momento, perché volete buttare giù Berlusconi, perché era un modo per buttare giù Berlusconi, per indebolire Berlusconi. Aspetti che le spiego anche questo. Ma intanto mi lasci dire che era tempo di cambiare, perché altrimenti cade l'immunità parlamentare. Ma l'UDC aveva un'altra perché cosa, aveva un'altra cultura da questo punto di vista. Se l'immunità parlamentare è applicata sempre e comunque per coprire sempre tutti, era per salvare la gente dirà, ma allora questo non è una difesa del Parlamento per evitare i forconi, per questo, evitare i forconi, no, perché è giusto così, perché questa è la legge. Quindi lei dice l'abbiamo su Cosentino come ha votato, su Cosentino come ha votato. Guardi, adesso io non mi ricordo come ha votato, come non si ricorda niente. Vabbè, scusi, però un attimo, ti ricordo che ci sono altri casi in cui ho votato contro, è la prima volta che ho votato a favore della pubblicità dell'autorizzazione. Torniamo subito. Bene, siamo qui alla Zanzara, 800 24 00 24, siamo con Rocco Buttiglione, vicepresidente della Camera, che una volta, mi ricordo, al Senato ci fu una polemica fortissima perché lei disse, anzi fece una proposta concreta, la famosa cosa del gelato, se la ricorda? No? La polemica del gelato. Perché alla Camera non c'era il gelato buono. No, perché al Senato non al c'era Senato, il gelato. Sì, adesso la Camera è contento lei, perché c'è... O l'hanno messo pure al Senato? La gelateria, la buvette? Onestamente non ne ho la minima idea. No, lei fece una proposta, onorevole Buttiglione. Sì, fece una proposta. Cioè lei voleva... Si era lamentato perché non c'era una gelateria al Senato, ma si rende conto o no? Eh beh, però sono problemi. Ma ci sono dappertutto i gelati, perché non ci devono essere al Senato? Comunque... Questo è grandioso, cioè, come lotta. Comunque, nonostante questo clima, lei lotta come un leone, nonostante questo clima... Sì, reitera, ma lasciate perdere questo clima. Non è che ogni fesseria quando cioè, il clima come, però il gelato non è fondamentale al Senato, come... cioè Giolitti non è lontano da Palazzo Madama, sì, no? Ma... uno può uscire due minuti dalla Camera c'è il gelato adesso? Non lo so, onestamente non lo so. Come, no? Anche come lei il ghiotto di gelati 4 anni fa era anche, preoccupato anche per i gelati al Senato e oggi alla Camera non ero preoccupato, passò una collega di cui non farò il nome, no, ma la quale mi chiese di firmare una lettera petizione, che lei stava scrivendo è così, ma se ne stimolo per mille sciocchezze, per i problemi del parcheggio, per il menù della casa. Come dei lavoratori qualunque. Io, ahimè, come dei lavoratori qualunque. E che non siete però lavoratori qualunque. Da questo punto di vista siamo lavoratori qualunque. Non c'è, lei non si sente un po' privilegiato rispetto agli italiani? Guardi. Sì o no? No, ma no. Quando io penso... Può dire anche di no. Quando io penso che c'è... Quando io penso che c'è gente che guadagna ha una pensione di 1.300 euro, allora, quello sì, è chiaro. E con le ultime provvedimenti gli vanno a togliere un terzo della rivalutazione della pensione, certo, è giusto tagliare i redditi dei parlamentari, questo sia chiaro. Ma in che modo li si può tagliare? In tanti diminuendo modi. L'indennità, eccetera. In tanti eccetera. Modi, ci sono indennità le quali non sono elevate, ma non sono controllate, per cui chi vuole se le può anche mettere in tasca. Controlliamole, facciamo come il Parlamento europeo, i soldi che ti danno per il tuo collaboratore o per l'attività politica, che non te li diano a te. Tu indichi la persona a cui gli danno direttamente a lui. E gli fanno il contratto e gli danno i soldi, oppure dici il convegno che stai facendo e loro ti pagano la sede, le cose, quelle che ti devono Torniamo pagare. Subito su questo argomento, andiamo a Napoli, Salvatore, 800 24 00 24. Però non mi ha fatto finire. Buonasera. Su, si sente un privilegiato? Sì, se mi no? Si dice che valgo meno dei soldi che prendo, non è vero. Quando non facevo il parlamentare guadagnavo molto di più. Ma come da che? Professore universitario? Abbastanza... Com'è che tutti, da professore universitario come diciamo, guadagnare di più che da deputato? Glielo spiego? Però ero... forte, ogni volta ti fai una domanda e glielo spiego, cioè, non è che continua a parlare. Risposta a tutto, vabbè, è il suo modo di parlare, continua a parlare. Mi piaceva l'intercalare. Dici, guardi, lei è un vigliacco, l'assassino. Posso parlare? Glielo spiego. Glielo spiego, guarda del vigliacco, dell'assassino. Glielo spiego, bellissimo, è un metodo meraviglioso. Ero prorettore della International Academy for Philosophy in Italia. Cioè, quanto guadagnava da professore universitario? In Italia i professori sono pagati male. E in Germania? Sono pagati molto meglio. Cioè lei da professore universitario... E poi io non ero in Germania, paese relativamente povero, ero in Liechtenstein. Nel famoso paradiso fiscale. Accademia, del famoso... Che però è anche un centro filosofico. Importante. Comunque lei dice da professore universitario guadagniamo molto di più rispetto a quanto guadagno da parlamentare. Molto di più. Per lei è stato un sacrificio netti. Allora, per lei è stato un sacrificio fare politica, dal punto di vista economico. No. Quando tu riesci a far vivere la tua famiglia, avere... più soldi o meno soldi non è tanto importante. No, d'accordo, però dal punto di vista economico è stato un sacrificio. Ci sono cose più importanti di soldi. No, io non lo considero un sacrificio, però se uno mi dice che valgo meno dei soldi che prendo, dico no, non è vero. Dunque, quella che si fa oggi, c'è molta demagogia in questa storia d'Italia, la politica, eccetera. C'è molta demagogia, c'è molta rabbia giustificata, perché ci sono delle cose ingiustificabili. Come sempre, c'è un po' di tutto. E soprattutto c'è molta giusta protesta perché la politica non funziona. È inefficace, vabbè. Però lei, mi stupisce, Putino, perché per carità, lei è filosofo, è professore universitario e giustamente di queste cose pratiche che sono i vitalizi non se ne mai occupa. Sostanzialmente non se ne è mai occupato. Onestamente non me ne sono... Adesso me ne sto occupando. Ma lei sa quanti soldi ha in banca? Però da quando è sul in Parlamento... Sul conto corrente, quanti soldi ha? Lei lo sa o no? Non lo sa, ma che è un filosofo. Ma è un professore universitario, non lo sa, secondo me lei non lo sa. Lei quanti soldi ha sul conto corrente? Così, dice il conto corrente di Buttiglione. Quanti soldi non lo ha? Che ci crediate o no, non lo so. Non lo sa. Non l'ho mai saputo. Non l'hai saputo. Ma hai fatto un estratto conto? Una matrice, Buttiglione va in banca. Vado e chiedo l'estratto conto. Ci va. Per controllare che non mi abbiano fregato i soldi, poi me ne dimentico. Va bene, 800 24 00 24. Comunque non ne ho, è adeguato lo stipendio a quello che fa? Ho appena comprato casa da poco, quindi. Lo stipendio da parlamentare, secondo lei, è adeguato al suo lavoro o no? È giusto? Ci si vive. Il parlamentare non dovrebbe chiedere più di questo. Beh, ci si vive, mi sembra un po' benino. Come ci si vive? No. Ci si campa. Con 4.700 euro al mese. Ci si vive bene. Si vive bene. È un po' più di quello che guadagna un professore universitario italiano e un po' meno di quello che guadagna un magistrato. Dunque, non siamo diversi dagli altri. Credo che non sia molto di più di quello che guadagna un giornalista. Anzi, dipende dal giornalista. Sì. Vabbè, dipende. Ne conoscete di giornalisti che guadagnano più di 4.700 euro al mese? Sì, però, tantissimi. Però Buttiglione non è 4.000, ripeto, non è 4.000 rotti. Ma lei può scegliere di fare attività politica in un certo modo o in un altro. Io le ho spiegato quali sono i termini esatti della questione. Sì, ma quello è per campare. Lei rimangono in tasca 4.500 euro se uno li spende tutti. Se il resto uno lo spende tutto, a lei restano in tasca al mese 4.500 euro. Esatto, è così. E non è poco, rimangono in tasca. Non... Puliti. Lei ha detto ci si vive, insomma ci Beh, si devi vive. Pagare l'affitto, devi pagare la vita. No, quello è al netto di tutto. No, che ha detto di tutto? Di che? Ma l'affitto, quello dice di casa sua, certo, del luogo di residenza. Devi pagare ci vita. Si vive, vabbè. Devi pagare la vita di una famiglia che con 4.500 euro vive bene. Facciamo una, magari un appello ai radioascoltatori. Ma non meglio di di tanti giornalisti. D'ora in poi... ogni volta si fa il paragone con i giornalisti, perché siccome sono i giornalisti che pongono le domande, guardi che io so benissimo che i giornalisti vengono pagati in alcuni casi tanto. Però c'è una differenza. I giornalisti di solito li paga un privato, mentre nell'altro caso... Quanto è privato? Beh, molto privato. Poi uno può parlare di davvero? Qualsiasi cosa. Certo. Se parlassimo dei 20 milioni di contributi all'editoria, che vengono dati a un unico grande giornale. Per la carta. A un unico grande giornale. Per la carta. Di cui, per la carta. E non dateli più. E per le spese postali. Non dateli. I contributi per l'attività politica sono diversi. Infatti, bisogna decidere quello che lo Stato fa o non fa. 20 è un unico grande giornale. Poi ci sono gli altri grandi giornali. Chi sarebbe 20 un unico grande giornale? Corriere della Sera. Corriere della Sera. L'ha detto lì. Anche al Sole 24 Ore vengono dati i contributi, Penso proprio di sì. Assolutamente, anche a Repubblica, eccetera, eccetera. Certo. Sì, ma non è un reato, è stabilito dalla legge. Pubblicità, ho detto che è un reato. Pubblicità, no. Poi ascoltatori. No, ascoltatori però in tedesco devono intervenire, Come perché tedesco? Poverini? Beh, professore, come si dice diaria in tedesco? Cioè, stipendio in tedesco? Tagesgeld. Tagesgeld. La pubblicità. La prego, professore. Stipendio Gehalt. Lanci. Non so perché le interessa, ma visto che me l'ha chiesto. Dica consigli per gli acquisti in tedesco. La prego, io lo sogno da La prego, la prego. Adesso basta. Solo pubblicità, solo pubblicità. Io adoro il tedesco. Adoro il tedesco. Weltanschauung. No, quella vuol dire quella visione del mondo. Quello non è consigli per però a pubblicità, l'annuncio. Dica solo in tedesco. Una volta, no, una volta. Una per 4.000. Ho detto anche la 4.000 euro al mese potrà dire per 4.000 euro intanto al mese sono di più anche secondo la mia pubblicità versione, potrà dirla pubblicità e basta poi basta solo pubblicità poi basta la prego la scongiuro devo proprio sì Werbung va bene no com'è no Werbung. Dica bene Werbung pubblicità guarda che siamo in diretta, in diretta. 800 24 00 24, questa è la Zanzara, corso di tedesco su Radio 24. Ripetete con noi Aufhebung. Ma cos'è Aufhebung? Cos'è Aufhebung? Willkommen. Cos'è? Willkommen. Che sta dicendo? Weltanschauung. Weltanschauung. Aufhebung. Aufhebung. Ma cosa vuol dire Aufhebung? Corso in tedesco per Radio 24. Superamento. Come fai a saperlo, scusa? Perché ho fatto il liceo classico. Come fai? Lei si deve avvicinare al microfono. Aufhebung ricordi del liceo classico? Ma è una cosa pazzesca. È un reato ricordarsi Aufhebung. No, non è un spieghi reato. Spieghi anche a cose associate l'Aufhebung. Il punto è molto semplice, onorevole Buttiglione. Voi col voto di ieri, l'unico obiettivo che Übermensch, avete, secondo me, Übermensch. È quello era superuomo. L'obiettivo Übermensch, che vuol dire oltre. Übermensch è il superuomo di Nietzsche. Ma la pronuncia è corretta? Uber è un po' caricatura. Come sarebbe? Più o meno. Beh, Übermensch. Ecco. Übermensch. Cioè stiamo dando su Radio 24 gli elementi anche di cultura, capisci, no? Ho capito. Il professore ride però. Vabbè. Presidente del Consiglio come si dice in tedesco? Regierungschef. Come? Regierungschef. Regierungschef. Berlusconi lo volevate far fuori ieri. È un primo passo, era un modo per indebolirlo. No. Come no? Buttiglione. Il problema è un altro. Glielo spiego? Berlusconi. Bellissimo, dici glielo spiego, meraviglioso. No, se mi interrompe. Anch'io, non voglio dire se non mi interrompe, non dico glielo spiego. Allora, il problema è molto semplice. Berlusconi ha un problema con la magistratura. È credibile questo. Che Berlusconi è oggetto di una persecuzione giudiziaria? Non dico se è vero o è falso. È credibile. Perché gli hanno fatto un mare di processi e sono stati accompagnati tutti da un clamore mediatico in cui era chiaro che, e perlomeno non dico era chiaro perché questo è eccessivo, il dubbio che fossero progetti, che ci fosse un progetto politico per abbatterlo tramite l'azione giudiziaria è legittimo. Questo dice non riguarda gli altri, lei dice. Ma è possibile che il Popolo delle Libertà deve diventare il partito dei Mariuoli? Che ogni perché persona... oggi secondo lei oggi, non il partito degli onesti mi come faccia, dice Alfano ma il partito dei Mariuoli mi faccia andare avanti. Buttiglione due punti se mi aspetta glielo spiego sì allora, spieghi, però... allora è possibile subito. Che ogni Mariuolo debba avere la tessera ogni del PDL. Debba essere avere la solidarietà non necessariamente la tessera del PDL con il ricatto che siccome difendete Berlusconi allora dovete difendere tutti. Possiamo fare l'elenco è... dei Marioli? L'elenco dei Marioli? No, non mi interessa fare Cosentino. No, facciamo dei nomi di quelli che lei ritiene Marioli. Non mi interessa fare l'elenco dei Mariuoli perché magari non mi interessa fare l'elenco perché poi nel singolo caso può anche darsi che ci siano delle persone per bene. quello che sono, sono solo accusate queste persone, appunto, qua, eh. Sono solo accusate. Alcuni sono anche condannati, per carità. Alcuni sono anche condannati. Anche nel vostro partito ci sono stati certo. condannati. Allora io voglio dire, e indagati. Non puoi 10 volte su 10 dire questo è un perseguito. Cuffaro che sta scontando la condanna certo. con esemplare di bravissimo, infatti, certo. Con esemplare però è stato condannato con sentenza definitiva. È stato condannato in via definitiva e sta scontando la condanna con esemplare dignità, si è difeso nel processo, eccetera. Chiusa la parete. Io non mi ricordo se il Senato o la Camera hanno mai allora, avuto una respinsero in un momento una richiesta di arresto. Non lo so, non mi ricordo. Allora, il problema è non può essere 10 volte su 10. Non può essere che il partito di Berlusconi diventa il partito sulla cui solidarietà ognuno può contare. Non può essere per la dignità non solo del Parlamento, ma anche del Popolo delle Libertà, della tanta brava gente onesta, per bene, che è in quel partito, che sono parlamentari di questo partito. Però perché il partito dei Mariuoli? Me la spiega questo. Perché il partito dei Mariuoli? Perché qualunque parlamentare sia colto con le mani nel sacco, sia sospettato a torto, ma a volte anche a ragione, a priori ha la solidarietà del Popolo delle Libertà. Loro, e questo è a difesa, prescindere, lei a dice. Prescindere. Questo è un privilegio di casta. Tu invece devi giudicare volta per volta. Ma anche voi nel passato eravate così. Avete sempre solidarizzato anche voi. Io molte volte ho votato contro. Ma adesso non so. O a favore, personale. A secondo. Insomma. Però a l'UDC storicamente ha avuto lo stesso atteggiamento che ha avuto Forza Italia prima e il PDL poi. Questo è uguale, identico, spaccato. Può darsi che una volta fosse così. Già da diverso tempo. Togliamo il può darsi. Già da diverso tempo non è così. Ma anche su Cosentino è stato così. Adesso non che mi ricordo. Che pure è accusato di cose molto più gravi. Non, io non so l'UDC come ha votato. Mi fanno segno di no. Mi fanno segno che di no. Può darsi di no. Ho l'impressione di aver votato invece a favore dell'arresto su Cosentino. Favore lei votò a favore dell'arresto su Cosentino. Credo di sì. Adesso facciamo forse tanti su voti. Cosentino no, perché c'è un momento diverso che non c'è stata la svolta. Non potete pretendere che ricordiamo ogni voto. Però poi quando eravate amici di Berlusconi, quando eravate nel governo con Berlusconi, quando eravate alleati di Berlusconi vi comportavate in un modo. Quando siete diventati tra virgolette nemici, sempre tra virgolette, di Berlusconi dal punto di vista politico, anche il vostro atteggiamento è cambiato da questo punto di vista, o no? Io l'ho sempre pensata così. Devo dire che d'altro canto anche il garantismo di Berlusconi è diventato sempre più peloso, mentre all'origine, nel senso che prima non faceva le battaglie che ha fatto adesso per in questo caso qui, più si è sentito minacciato e ricattato, perché si sente ricattato, perché se tu dici che Berlusconi devono, da questo punto di vista se tu uguale, dici che noi dobbiamo votare che se tu voti contro di noi, allora noi diciamo ma perché contro di noi e non contro di lui e non contro di te? Questo è il meccanismo che si è instaurato e che ha portato a un degrado del costume parlamentare. Scusi, se domani un vostro esponente, qualcuno ieri ha fatto il nome di Cesa dell'inchiesta su Bisignani, ma lasciamo perdere adesso i dettagli. No, credo proprio se che domani, non sia il caso. No, vabbè, ma comunque, insomma, se domani un vostro esponente, importante o non importante, dovesse entrare in un'inchiesta e ci fosse una richiesta di arresto di un magistrato, lei mi dirà, guardo le carte, leggo le carte, eccetera, eccetera. Che devo fare? Valuteremmo il caso e poi alla fine in coscienza decideremo. Bisogna fare così. Sì, però io il sospetto... perché la legge deve essere uguale per tutti, puoi sospendere, ma nel caso di Papa puoi in percentuale professore... puoi sospendere il principio dell'eguaglianza dei cittadini davanti alla legge solo per fondate ragioni. Benissimo, ma nel caso se c'è di un Papa quanto hanno pesato le carte in percentuale, quanto invece l'idea di dobbiamo mandarlo in galera per dare un segnale in percentuale, quanto ha pesato le carte, guardi, le 6.000 pagine di richiesta, guardi. E quanto invece la valutazione per noi, politica? Per noi 30%, 40%, 50%? Già da tempo la linea era questa. Le faccio un esempio di cui mi ricordo. Vi ricordate quando si chiese l'autorizzazione a procedere contro Lunardi? Sì. Ecco, il mio partito ha votato a favore dell'autorizzazione a procedere contro Lunardi. Questo caso me lo ricordo perché io, avendo una mia opinione, avendo visto cose, sapendo cose, Su Lunardi non ho votato con il mio partito perché avevo la convinzione che Lunardi fosse, cioè che fosse un caso di persecuzione politica, o che ci fosse il dubbio legittimo, perché non sto dicendo che i giudici volevano, ma ci fosse un dubbio legittimo, e ho votato in modo abbiamo traffico, torniamo tra un attimo partito. Dopo il traffico. Eccoci, qualche ascoltatore, poi chiudiamo con Rocco Buttiglione, esponente dell'UDC, vicepresidente della Camera. Paolo da Milano, buonasera. Buonasera. Dica, signor Paolo. Io voglio essere molto semplice. Sì, mi dispiace che sia. Anche una persona che considerava abbastanza illuminata come il professor Buttiglione non, che ha detto? Non, che non ha detto? Riesce... No, mi ascolti. Sì. Non si rende conto che il vento è cambiato. Ma veramente ha detto il contrario, l'Italia. Ha detto siccome il vento è cambiato, abbiamo votato. Ma su che cosa dice lei? Fatto ascoltare. L'Italia non è più disposta a credere ai politici. Il referendum sul legittimo impedimento, dove la maggioranza degli italiani ha deciso di andare a votare e votare sì, è la dimostrazione che costringere un Parlamento, come è stato costretto, a votare e credere che la Ruby fosse la nipote di Mubarak, l'Italia, questo qui, non gliel'ha passato ai nostri politici. Vuol dire che per me quella lì è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché è un Parlamento che ha votato detto che Buttiglione non ha votato quel provvedimento su Mubarak, la maggioranza l'ha votato, la maggioranza sì, ma l'ha maggioranza votato. Ma io sono in minoranza, guardi, okay. No, sono perfettamente d'accordo con lei, non è l'accusa che può rivolgere a Buttiglione. Io mi rivolgo a tutti. Benissimo. Lei dice da quando c'è stato quel voto lei non crede più, o comunque ha smesso di credere alla politica in generale. È cambiata. L'aria è cambiata. E la sinistra, il voto negato alla chiusura delle province lo pagherà. E io sono un elettore di sinistra. E noi abbiamo votato per l'abolizione delle province anche? No, prenda non nota. Avete votato, il PD non l'ha votato. Sì. Scommettiamo? Cosa scommette? No, l'UDC ha votato per l'abolizione delle province. È una battaglia dei pochi partiti che ha fatto. È una battaglia che Casini porta avanti. Da sempre che noi facciamo la battaglia porta per avanti, quello. Porta Se vuole scommettere, questo è vero. Quello che vuole, le porto i documenti. Va bene, grazie. Come abbiamo votato contro Ruby, perché era evidente che in quel caso lì era una bufala, come abbiamo votato contro, cioè abbiamo votato nel referendum di nuovo, contro il legittimo impedimento. No, forse sul legittimo impedimento aveva indicazione di votare sì al referendum, o sbaglio? È vero che lei sa sedurre meglio di Silvio? Non è vero assolutamente. L'ha detto in un'intervista. Ma quella è una bufala che avete costruito voi giornalisti. No, noi giornalisti. Se la prenda la settimanale A. Faccio attacchi al personam. So sedurre meglio di Silvio. Allora, un momento, calma. Posso rispondere? Berlusconi non sa essere amico delle donne. Io invece le conquisto con un'arma segreta. Lasciatemi tutto rispondere. Inventato. Posso rispondere? Non è tutto inventato. Posso rispondere? Celletti è un professionista serio. No, io cosa ho detto? Cosa poi vi aspettate che dica uno bigotto come me? Io ho spiegato che le donne non servono solo per portarle a letto. Uno che non impara ad essere amico... invece Berlusconi le usa solo per portarle a letto. Sì. Così sembra, almeno da quello che dicono. Così sembra, da quello che dicono. Sic videtur. Allora, bravo. Allora io ho detto, la cosa migliore della vita è la presenza del femminile, che è la cosa più bella che dai. La seduzione, dice lei. Però anche a letto ogni tanto, no? Preferibilmente con una, altrimenti possono perché Berlusconi con una in contemporanea. Berlusconi ama l'area. No, possibilmente una per tutta la vita per cui avere dei figli. Però quando sei fidanzato, lei? Però tante con cui essere amico. Quanti anni avevo? Quando sei fidanzato? Cioè, da quando mai sta con la stessa moglie, la stessa donna? Dunque, io sono. Adesso non si ricorda neanche questo. Non si ricorda. Il conto è banca. Da quando sono fidanzato, sì. Mettiamo. Da adesso va a casa la moglie. Da quando sono sposato, mi ricordo benissimo. Sì. Non vi do la data. Guardi nella fede, se mai. Se non si ricorda la data. Mi ricordo benissimo. Sì. Non dite che non mi ricordo che con mia moglie. No, signora Buttiglione, stia serena, è tutto un gioco. Dal 1972. 72 è sposato. Sono 39 anni. Di matrimonio. È sposato. È fidanzato? È fidanzato? Sempre con la stessa. Mai nessuna piccola sbavaturina, magari una volta che le piaceva. Un tradimentino. Un piccolo bacino. Calma. Posso per rispondere? Posso parlare? No, è stata una storia un po' tormentata perché c'è stato un po' un tiramolla. Come tiramolla? Cioè? Tiramolla perché... fatevi i fatti voi. No, scusi, quello che vi ho detto tiramolla? Cioè, lei ha avuto altre donne, dopo il matrimonio ha avuto anche altre donne? Stiamo parlando di prima del matrimonio. Prima del matrimonio. Lui ha cominciato a parlare da quando eravate fidanzati. Prima del matrimonio. E io ho qualche difficoltà perché non so qual è il termine giusto da cui quante partire. Scusi, non per farmi gli affari suoi, ma uno come lei, cattolico, eccetera, eccetera, quante donne ha avuto nella sua vita? Non le pare che sia proprio un farsi gli affari miei? Sì, no, così, è una curiosità. Più di 5 o meno di 5? E allora non si fa. Si faccia i fatti suoi. Siamo tra di noi, una sola forse? Una, due? No, una. Non credo. Sì, una sola. Una, sì. Cioè, solo una. È stato solo con una donna lei? No, per carità, ma non c'è niente. No, non è un reato. Non è un reato. Non è che arriva la magistratura. In questi tempi sembra che... Ma comunque, fate i fatti vostri. È stato solo con una donna. Bellissimo. Fate i fatti vostri. Vabbè, ma così, ma non c'è niente di male. Scusi un secondo, scusi. Lei, Cruciani, scusi un secondo, professore. Lei, Cruciani, non lo conosce bene. Com'è? Da quel punto di vista, il genere femminile sostanzialmente non lo conosce. Dal punto di vista, diciamo, glielo chieda a Cruciani anche. No, che c'entro io? Però ci sono tanti altri aspetti. No, certo, per carità, no, però sì. Una sola donna in tutta in la cambio, vita, no, è una come dire, una generazione, cambio, no, vecchio stile, in no? Cambio, ho tante amiche in giro per il mondo. No, no, certo, perché? E sua moglie non è gelosa di tutte queste amiche? No, perché sa che tanto lei... Non è il caso di essere... Lei, Cruciani, quante donne... Ma cosa c'entro io? No! Al professor Buttiglione glielo chiedo tutto e a lei no, signor Cruciani. Paolo da Piacenza, buonasera. Signor Paolo da Piacenza, adesso la mettiamo in mezzo. Paolo da Piacenza. Paolo da Piacenza, buonasera, dica. Buonasera, telefonavo un'idea sulle io che c'entro io? Sì. Mi chiedo, ma d'accordo che uno può contribuire alla pensione in base a quello che guadagna, ma poi perché lo Stato deve mantenergli quel livello di vita non così deve. Elevato? Aspetta. Nel senso, basterebbe dare una pensione, diciamo, dignitosa a tutti, indipendentemente da quello che ha guadagnato. Uno non ho capito, guadagnato rispetto a cosa? Non ho capito, senso, Paolo. No, nel senso che ci sono persone che hanno stipendi e introiti diversi, no? Uno contribuisce, diciamo, a un fondo, diciamo, pensioni. Non ho capito bene il ragionamento. Tutti. Un fondo comune, cioè, lei sta dicendo che i vitalizi dei parlamentari dovrebbero essere cambiati radicalmente e bisogna contribuire a un fondo comune per fare... No, vale per tutti, adesso non è che ci possiamo mettere a fare stasera alle 20:25, dopo essere passati dalle fidanzate di Buttiglione, lei ci vuole fare proposte per riformare il sistema pensionistico italiano, abbia pazienza, cioè non ce lo possiamo permettere adesso, se vuole faccia la sua proposta, però mi sembra che no. Che ne avete parlato, no, ho capito, ma va benissimo, no, per carità, va bene, però... Insomma, non mi sembra. A me va bene tutto, dico solo, i parlamentari trattiamoli come tutti gli altri. Esatto, poi quello che scegliamo per tutti va bene. Posso essere d'accordo. Buttiglione, guardi che succede negli Stati Uniti. Grazie Paolo, guardi che succede negli Stati Uniti. Che succede negli Stati Uniti? Gay e deputato, negli USA cade il tabù, sempre più omosessuali fanno carriera in politica, anche nei feudi conservatori. Oh, paese civile. E poi a New York, come lei sa, città importante nel mondo, no? C'è la corsa a sposarsi da parte degli omosessuali. Corsa. Corsa. Come corsa? Corsa. Da domenica ci si potrà sposare, troppe le richieste, posti sorteggiati. Posto civile. È quello. La prima volta che lo fanno e quindi ce ne sono tanti. E dunque? È posto civile, è, no? È la idea che adesso i gay entrano nella politica americana è una bufala. Perché? Come? È perché io mi ricordo c'era Bernie Frank, un mio amico che è un gay e che era già in politica. Rappresentava Boston alla Camera dei Rappresentanti nel 1980 e rotti. Quindi non è una novità. Però New York posto civile, però no? Ci sono sempre più coming out da questo punto di vista. New York posto civile, cioè, ci mancherebbe. Cioè per questa storia civile di... anche, perché... anche perché hanno fatto questa cosa qui o no? Su questa cosa o meno civile? Su questa cosa non mi permetto di giudicare la civiltà. Su questa cosa, come è noto, io non sono d'accordo. Però no, certo. Questo non toglie il fatto che New York sia un posto civilissimo. Non è che la civiltà di New York viene compromessa da questa cosa qui, no? Dal fatto che ci sono i matrimoni gay, adesso ci si può sposare. No. Sturm und Drang. Ma perché sei fissato col tedesco? Sì, è una cosa incredibile. Sono tre parole. Sturm und, ma è bellissima la traduzione di Sturm und Drang, professore, no? È tempesta, com'era? Si usava in assalto. In letteratura. Ecco, in tedesco come si può definire questa la situazione politica di oggi? Ma dobbiamo fare la situazione politica di oggi. Interessante, la situazione politica di oggi, come la descriverebbe in tedesco? Perché il tedesco ha una parola unica lunghissima, esatto. Per questo che è molto bella. È affascinante, è evocativa. Come la definirebbe in tedesco? Una parola lunga, io la definirei con una parola breve. Cioè? In tedesco Wirrwarr, cioè? È intraducibile. Che tutto si mescola. Grande caos sarebbe. Come una lavatrice che funziona. Che va, come una lavatrice. Più o meno, Wirrwarr. Che magari è una marca di lavastoviglie, anche di lavatrici, magari in Germania. Ma lei, no, lei ha intenzione di continuare a fare politica? Miele, quando finirà questa legislatura? Saranno già passate 5 legislature. Sarà la sua ultima legislatura oppure ha intenzione di continuare? O vai in Africa come Veltroni? No, casomai in Africa non penso. Veramente non c'è mai andato. In Germania. Casomai andrei in Germania o negli Stati Uniti o in Polonia, non so, in qualcuno dei paesi dove sono stato. Ha intenzione di continuare o no? Guardi, io ho un'idea, sono in politica per realizzare un obiettivo che adesso mi sembra abbastanza vicino da realizzare. Certo, se questo obiettivo cammina, costruire un grande partito dell'area moderata. Beh, c'è stata una volta, c'era la Democrazia Cristiana. No? Da quando non c'è più la Democrazia Cristiana, il paese non va bene. Non bisogna rifare la vecchia Democrazia Cristiana, sia chiaro. Però bisogna Berlusconi ha occupato l'area moderata, non l'ha saputo organizzare, non l'ha saputo fare il Partito Democratico dell'area moderata, e adesso che Berlusconi sta andando verso la fine del suo ciclo politico, quest'area moderata rischia di rimanere. Dunque lei si ricandiderà. E se questo progetto può camminare, e mi sembra che possa camminare, certo, sento il dovere di portarlo avanti. Anche perché, guardi, che è pericoloso. Oggi, visto che lui parla della Germania, c'è un autore tedesco, Ernst Toller, che ha discusso com'era la Germania dopo la Prima Guerra Mondiale. Lui dice: qualunque sciagurato che fosse passato agitando uno straccio di bandiera, rossa o nera che fosse, avrebbe trovato un seguito. Oggi l'Italia è così. La gente è arrabbiata, la gente è frustrata, la gente è depressa. O si è capace di costruire, per organizzare quest'area moderata, una proposta politica seria, oppure... Ma il terzo polo esiste o no? Il terzo polo è l'embrione di questa cosa che vogliamo fare. Però secondo me... Che è successo? Chi è che si è inserito? Andiamo bene. No. Era il telefonino tuo. Allora, per concludere però, Buttiglione, io vorrei chiudere in questo modo, perché devo dare la pubblicità, poi la ringrazio e la saluto. Ma lei, che ha detto di aver avuto una donna nella sua vita... Ah sì, questo non l'ho detto, me l'avete fatto dire, ma non... Gliel'abbiamo estorto, gliel'abbiamo estorto. Ma almeno un filmetto così ogni tanto di questi qua un po'... Mai lei conosce il... volevo fare questa domanda, ma non la faccio più. No, è una domanda troppo, troppo privata. Troppo privata. Sa quei film, diciamo, non propriamente mi è venuta in questa cosa perché ho letto un'intervista su Panorama alla moglie di Rocco Siffredi. Oggi dunque ho questa cosa in testa. Vabbè, lei sa chi è il professor Siffredi, no? Professor Siffredi. Sapevo che fosse il professor Siffredi. Nel suo campo, diciamo che nel suo campo è sicuramente un luminare, un cultore della materia. Vabbè, niente, non vogliamo imbarazzarla, professore. Non la faccio più. Li ha visti sti film o no? Non vogliamo imbarazzarla. Ha mai visto un film porno, sì o no? Fatemi. Grazie. Vabbè, grazie professor Buttiglione. Pubblicità. Ivana da Milano, 800 24 0024. Ivana, dica. Sono qua. Senta, io purtroppo volevo parlare con il professor Buttiglione, professore onorevole. Comunque, volevo solo dire che si vergogni di tutto quello che ha detto. Perché si dovrebbe vergognare? Perché come si fa a parlare di stipendi del genere? Quasi quasi propongo una colletta, perché poverino... Cioè lei dice... dice poverino, sembra da come parlava, poverino. Sembrava... Esatto, sembrava che era in difficoltà. E poi vorrei capire cos'è la reversibilità della moglie. Cosa sono le reversibilità delle mogli? Cosa sono già morte, morto lui? Come funziona questa cosa? Non mi è chiara. Vabbè, ma le reversibilità valgono per tutti. Valgono per tutti, cioè non è che valgono solo per i normali. Quando si è morti? Beh sì, che parlamentari parlano della reversibilità della moglie, che cavolo è? No, come per qualsiasi lavoratore. No, c'è un contributo che danno per la pensione di reversibilità, perché poi la pensione sia trasferita poi anche alla moglie o quando si crepa, insomma, questa è la sostanza. Va bene, Ivana, grazie. Sandro da Milano, buonasera. Buonasera. Dica. Dunque, io volevo anch'io parlare naturalmente ancora della casta, anche se sono molto d'accordo con lei che gli italiani sono una casta. In quanto siamo 60 milioni di individui, come ci aggreghiamo, diventiamo una casta anche noi. Comunque io volevo dire questo, della classe politica, per non usare il termine casta, al di là del lato finanziario che è notevole, ragguardevole, ci costa un mare di soldi, anche perché poi queste cifre che voi avete parlato di 12.000 euro, a me sembra un po' di più, perché addirittura prendono meno. Un consigliere regionale sardo ha messo, in seguito a trasparenza, ha messo, facendo i suoi conti, che io mi sono messo lì perché non si capiva molto, perché questo diceva, allora? Io prendo questo, prende 14.000. Quindi c'è qualcosa 14.000 che non come? Netti? Netti, sì. Il consigliere regionale della Sardegna. Sì, può darsi, poi ogni regione si... Ogni regione. Esatto, quindi praticamente in Lombardia siamo sui 12-13.000 netti. Sì. Anche chi ha fatto la maturità tre volte, mentre lo Stato italiano non riesce a pagare un ricercatore. Però di tutto questo, una cosa... Parla di Bossi, lei. Parla di anche, Bossi. E anche di quella che fa prestazioni... Orari sembra che abbia, non so, prestazione che con che merito sia andato il consiglio regionale. Vabbè, perché amica di Berlusconi, diciamo così, amica di Berlusconi, si chiama Minetti, regolarmente diplomata, eccetera. Sì, conosce la lingua, conosce l'inglese. Battuta facile, inglese, battuta da casermafacile, dai. Vabbè, d'accordo, lasciamo stare quello. Sandro, non ho capito il suo discorso, dove vuole andare a parare. Quello che mi urta di più dei politici è l'arroganza, la supponenza che hanno. Io vi seguo molto, anche se a volte non sono d'accordo con voi, ma con lei soprattutto. Comunque posso dire che una volta mi piaceva di più, mi piace di meno, mi piace ancora adesso, non faccio quello. L'arroganza, io ho sentito l'intervista di Ferrante, Podestà. Sì. Discorsi della provincia, la storia della macchina. Conosciamo che bene. Mi ha trattato malissimo, proprio non riuscivo, ha trattato come imbecilli. Tanto il termine. Ognuno si fa un'idea. È stato molto arrogante in sostanza. E lasciamo stare il Stracquadagno, che stasera è stato altrettanto. Va bene. E questa è la classe politica. Vabbè, lei ognuno fa il suo lavoro. La ringrazio, signor Sandro. Io invece sono d'accordo con quello che oggi scrive Giuliano Ferrara sul Foglio. Che ha scritto? L'aula del disonore. Questo voto scandaloso non riguarda, sto leggendo la conclusione, maggioranza o minoranza, correnti e interessi piccini di piccola officina politicante, velleità e altre miserie personali. Riguarda la questione centrale della nostra democrazia dopo la crisi della Repubblica e a quasi due decenni dall'inizio della transizione. La definizione di una rigorosa autonomia del potere politico e delle ambizioni militanti del partito mediatico giudiziario. Una Camera che si consegna mani e piedi a Harry John Woodcock ratifica la sua irrilevanza e merita di sopravvivere nell'ignavia. Merita di sopravvivere nell'ignavia. Nell'ignavia, questo è. Le opinioni hanno lo stesso valore dei fatti. Questa è un autorevole. Cioè, perché le opinioni hanno lo stesso valore dei fatti. Questa è un'opinione autorevole, secondo me, assolutamente non condivisibile. Perché non si è deciso su una tesi di Woodcock, ma assolutamente sì, no, ma su un principio generale, è l'agnello sacrificato. Suffragata da alcuni documenti, da alcuni dati, da una richiesta di un GIP che non è Woodcock. Ma quali dati? La decisione di ieri della Camera ha questo solo significato, peraltro contraddetto dal voto contrario del Senato. Dobbiamo dare impasto all'opinione pubblica eccitata dal circuito mediatico giudiziario in una specie di ordalia tribale mascherata da libertà di coscienza, uno dei nostri, un quacquaraquà sacrificale. Renzo da Milano, buonasera. Pronto? Sì, sì, buonasera dica. Ai consultori, a lei Parento. Sì. Io voglio intervenire sul voto di ieri alla Camera e poi riflessione sui mercati, sull'atteggiamento del presidente Berlusconi durante i mercati. Allora, primo, diciamo, mi sono fermato così. Allora, si parlava prima di Maroni che avrebbe dato una pugnalata alle spalle a Bossi. Non concordo su questa visione, in quanto insomma c'è un patto fra Bossi e il Maroni, in quanto Bossi secondo me ha questo patto col Berlusconi che è un po' tradirlo, insomma, un po' svicolarsi. Pertanto lui si è astenuto ad essere presente alla votazione, facciamo pensare appunto che non è in accordo con l'altra parte della Lega, e invece ha lasciato fare diciamo il lavoro sporco fra virgolette a Maroni, cioè quello di votare per appunto l'arresto, con quali sono d'accordo, ecco, quanto che c'è appunto la base della Lega che sta anche se stasera in maniera piuttosto piuttosto chiara, per parare un po' tutte queste critiche che stanno montando, Maroni ha detto: Bossi guida la Lega in modo saldo e sicuro. Chi c'è? Vittorio Sgarbi? Vittorio? Dov'è? Eccolo. Dove sei? Grande professore. Sono davanti a Palazzo delle Esposizioni. Ah già, perché presentava il suo libro, certo. Senti, vuoi dire qualche cosa a Parenzo che va in giro con le manette a intervistare i politici? Espediente narrativo. Sai che Parenzo va in giro con le manette a intervistare i politici ridendo e scherzando? No, ti ho chiamato questa notte verso le 2 perché ho sentito una replica della trasmissione dove tu sembravi quasi una persona di buon senso, perché reagivi a uno che ti aveva proibito di chiedere a Papa come stava mentre andava. Certo, c'era un po' di guairismo, ma immagino che potergli dare la parola un attimo prima di arrivare in galera. Ma infatti, era un atto di pietas che prevaleva sulla... Oltretutto, nella prospettiva facile, che come a Margiotta gli tocchi qualcosa che sarà uno smacco per i giustizialisti, ma che non lo si dice Margiotta del Partito Democratico. Quando fra sei mesi sarà assolto da tutto, io spero che ci sia una giustizia nel cielo, nel CSM, che mandi in galera Woodcock. Cioè, non è possibile che uno arresti continuamente delle persone e non paghi mai. Secondo te, se mai dovesse essere assolto da tutto Papa, va arrestato Woodcock? È assolutamente innocente di tutto. Se è innocente di tutto. Sì, innocente di tutto, salvo le stupidaggini folcloristiche degli orologi, quelle balle lì che sono cose amministrative, se puoi pagare una multa. Ma il suo, dico perché la rivelazione di notizie segrete a Bisignani è una secondo te non c'era nulla di segreto, questo lo dici tu che sei ignorante come una capra. La concussione non aveva alcun potere e non contava niente, e soltanto nella vostra ricostruzione la P4 è una cosa che abbia significato, è una mistificazione criminale, non c'è nessuna P4 e Bisignani vale come il 2 di coppe quando la briscola è da Mari, cioè non conta niente. È soltanto la vostra fantasia criminale dà ragione a quel povero disperato di Woodcock che diventa famoso attraverso inchieste sulla pelle degli altri. Non è lui che chiede l'arresto, Vittorio, è un GIP che lo convalida. Lui ha chiesto l'arresto al GIP, addirittura per associazione eversiva, per associazione criminale. Non gliel'ha concessa, perché questo qua ha portato un quadro tale che guardando quattro carte avrà pensato che c'era almeno la concussione. Neanche la concussione, cioè non c'è niente. Ma voi hai già deciso. Però scusami, Vittorio, Woodcock non può permettersi di inventare la P4 contro la realtà delle cose. Bisignani non contava nulla se non fino a quando non è morta la Prima Repubblica. Contava il suo unico rapporto di potere con Cirino Fomicino, che è un catenaccio sopravvissuto nella Prima Repubblica. Finito. E io te lo dico con matematica certezza. È un millantatore senza alcun potere che non ha fatto nulla. Lo provi il caso di Barbareschi, che lo chiama per diventare direttore del teatro argentino e diventa poi l'Avia. Lo prova il caso del comandante della finanza che va da D'Alema e dice: non conoscevo Bisignani, ho letto sul giornale che era importante. Però Vittorio, abbiamo un'interruzione di qualche secondo. Voglio dirti una cosa: siccome ieri sera mi hai chiamato alle 2 di notte, ma in realtà lo chiama e se vengo da lei. Non va a chiamare una cosa grottesca, voyeuristica, patetica. Leggo sul giornale che è importante, che vuol dire? Ma che roba è? La P2, vi ricordo, era Alighiero Noschese. C'era Alighiero Noschese della P2, c'era Gervaso. Cioè, vuol dire, già la P2 era una Pantoluca, che non ha niente a che fare. Come basta leggere, come ho detto mille volte, nella sentenza di Cassazione. Ma non stiamo Vittorio, lasciamo perdere questa cosa qua. Come giudichi il fatto che la Lega, che Maroni in sostanza abbia deciso di mandare in galera Maroni Papa? Maroni è un pericolo pubblico. Maroni è uno che cerca di avere la sua rispettabilità con la Lega facendola pagare a Papa. Non ha niente a che fare con un personaggio degno del ruolo che deve avere. È un ministro degli interni, Vittorio! È un ministro degli interni! È uno dei migliori ministri. Perché sto a parlare con voi di queste fregnacce. Voi dire la verità. La P4 non esiste. Va bene, d'accordo, ma Maroni perché è un pericolo pubblico? Perché è un pericolo pubblico? Non si può dire. È un pericolo pubblico perché uno che fa arrestare un innocente è un pericolo pubblico. Ma come fai a dire che è innocente? Lo dirà la magistratura, no? Che Vittorio Emanuele, quel pirla di Vittorio Emanuele, era innocente, sì. Ha fatto 20 giorni di galera, gliel'ha fatti fare Woodcock. E chiederà il risarcimento in giusta detenzione. Cioè, secondo te Maroni ha consegnato... Vi dico, è lo stesso, come è stato per Margiotta. Siccome si è scoperto che era innocente, perché ha chiesto la galera di Margiotta? Vergognatevi di non guardare la storia. No, ma quella è la storia di Woodcock, d'accordo? Che non so che se chi ha chiesto l'arresto, l'ho chiesto io. Non me lo ricordo. Era un amico personale, era un cordoviano, come lui dice. E quello gli ha fatto pagare. Cioè, vabbè, questo è quello che dice Papa, Questo è quello che dice Papa. Le istituzioni e Woodcock. Il suo comportamento. Ma adesso stavamo parlando di Maroni. Ha il suo puro interesse politico. Dunque, la base leghista, giustamente, prova schifo per Papa, li capisco. Perché vuol dire provare schifo vuol dire che uno deve essere arrestato. A me fanno schifo tanti, schifo de mita, da sempre. Ma non per questo penso che bisogna arrestarlo. Vabbè, Però... Allora, ma qui parlava della difesa del colpevole addirittura, non è che se uno ti sta sui coglioni e ti fa schifo perché è un terrone meridionale devi arrestarlo. Maroni, questa psicologia usa, che siccome i suoi vogliono il condannato, vogliono il colpevole, sì, lui se lo dà. Sì. Questo è. Traffico, torno subito, resta lì, non scappare. Eccoci qui, conclusione della giornata di oggi con Vittorio Sgarbi in collegamento... Dalla, dov'è? Dal Palazzo delle Esposizioni, dove presenta il suo libro, sì. Che cosa succede alla Lega? Dillo. No, la Lega torna al 92-93. Al cappio. A quello probabilmente, ma... Vittorio, dici qualcosa su questa Lega che torna al cappio. No, dico che viene tutto così trasparente. Ora, lungi da me, come qualcuno dei tuoi assatanati di sangue penserà che io debba difendere Papa, non me ne frega niente, non lo conosco, non ho avuto nessuna ragione, ma mi sembra che l'irrilevanza dei casi di imputazione non meriti la galera. D'altra parte, avendolo dipinto come un mostro per quattro Rolex, uno che è un amante russa, cioè cosa c'è più idiota? Poi fa uno che è più idiota, c'è l'amante russa di per sé, è la prova di quanto uno può essere idiota. Ma c'è la rivelazione di notizie segrete a Bisignani. Ma non. Allora ti ripeto che Bisignani non ha fatto niente e non c'era nessun segreto. Ma non lo devi valutare tu, lo valuteranno i magistrati. Che era intercettato, non è una notizia segreta, è lo scandalo di intercettare la gente. Murdoch per intercettare paga, da noi li paghiamo per le intercettazioni. Smettono di testare la gente questi delinquenti. Murdoch, ma scusami, se il ministro degli interni come Murdoch, uguale se... a Murdoch, però... ha intercettato Vittorio Emanuele per sapere con chi scopava, spendere 2 milioni miei, si vergogni, ma... e nessuno lo fa pagare. Intercettazioni che... ridicole. Diceva voglio dire, se il ministro degli interni, che io giudico una si brava fa, persona, si fa la foto, vota, si fa la foto, si fa la foto mentre vota per l'arresto di Papa, e il ministro degli interni è un bel esempio di una politica che si vuole rinnovare in questo paese. È peggio di Papa, perché approfitta di un innocente soltanto per le ragioni elettorali. È pessimo. Pessimo è un ministro degli interni, la legalità, questo deve far rispettare. Ma la legalità la conosci tu, quale legalità? Ma che quale legalità parli? Questa è l'illegalità, ministro... è mascherarsi, fare dei finti arresti, inventarsi dei crimini che non ci sono, gingillarsi, questo fanno loro. Altro che la metà di quelli che arrestano sono innocenti. Ma com'è che presenta per reati di mafia? Una persona come Papa, non parlamentare, con le stesse accuse sarebbe già in galera. Ma spiegami tu la differenza. Di quello, non l'avrebbero accusato perché facendo il magistrato. Quando era magistrato era uguale. Il potere di Papa non è in quanto deputato, è in quanto magistrato. Quelle cose le sapeva da magistrato. Se entrambe. Una notizia filtra da una procura, non arrestano nessuno. Però se filtra da Papa, sì. Però, Papa, scusa, quelle cose le sapeva in quanto magistrato, non in quanto deputato. Però devo dire una cosa. Allora, il problema è anche questo, Parenzo, tu non lo vuoi capire. Le esigenze di custodia cautelare. Sì. Non c'erano più, non ci sono più. Le decidono il PM e il GIP le convalida. Ma quale GIP? Ma come quale GIP? Ma non lo sapete. Due vergognosi poveretti. Comunque, facciamo discutere con un depensante come Parenzo. Scommettiamo 3.000 euro che tu avrai quando sarà stato assolto Papa e si scoprirà, mi darai 3.000 euro, te li do io, non te ne sarai a discutere adesso. Ma allora dirai che questa è stata una cosa criminale, che l'arresto era insensato. Altrimenti vergognati, io te lo dico già adesso. Io non mi devo vergognare di nulla. Sai di chi respingevo l'arresto in Parlamento? Bruno Tabacci. Chiedono l'arresto di Tabacci e lo respingevo. E allora era sbagliato chiederlo, perché Tabacci era innocente. L'avessero arrestato, sarebbe stato un crimine. Ma questo è un problema della mala giustizia. Papa trattato come gli altri cittadini italiani. I innocenti devono essere liberi. Non si arrestano gli innocenti. Ma non c'è dubbio, ma Papa, per il fatto stesso di essere un deputato, gode di un privilegio che un altro cittadino normale sarebbe stato già sbattuto in galera e buttata via la chiave. Vittorio, il ministro degli interni ha dato un grande esempio. Quando era solo giudice non l'hanno inseguito e le cose erano le stesse, le sapevo uguale. Le cose comunque, che ti dico bisogna sapeva, avere... le sì, in però, giudice, Vittorio, non in quanto parlamentare. Lo sai come si risponde a questa cosa? Dicendo che i parlamentari non sono uguali agli altri, punto. Cioè non sono uguali agli altri. Ma sono ugualissimi agli altri. Ma no, ma non sono uguali, ma meno male che non sono... Meno male! Serve difenderli dal prepotere di magistrati che usano la loro condizione per attaccare la politica. Questo ma Woodcock dove vuole arrivare? Che vantaggi vuole ottenere Woodcock, secondo te? Ah, vedete il suo egotismo. D'altra parte, lui non si ricorderà, il povero Parenzo, che c'era un signore che si chiama Ghitti, che quando io attaccavo di Pietro, Italo diceva, Ghitti, come no, ma Italo Ghitti, certo, di indicare come reato, che non esiste ma che è fondamentale, la corruzione d'immagine. Vabbè. Io arresto un potente per sembrare come Robin Hood, come ma Davide, scusa, con Golia. Chi sta indagando su Penati? Ma scusa, ma chi sta indagando in questo momento su Filippo Penati, vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia? Ma chi se ne frega? Filippo Penati, tanto perché perché non te ne frega un cazzo di Penati? Non te ne frega un cazzo di Penati? A Sgarbi non gli frega nulla di Penati. Se dovessimo accettare che l'imputazione è colpa, basta questo, quello che ha fatto va in galera. Ma allora c'è un attacco anche nei confronti del PD da parte della magistratura? Ma non è un attacco, non lo so, può darsi che siano vere entrambi le ipotesi di imputazione. Io non lo so. Ma lui dice che non deve andare in galera. Lui dice che non deve andare in galera, lo vuoi capire o no? Parenzo. Dal punto di vista delle ipotesi, il reato attribuito a Penati è più grave di quello attribuito a Papa. Quindi entrambi non meritano l'arresto. Si va avanti, quello che diceva il povero Bossi. Una volta che sono stati condannati, li mettiamo in galera. Non prima. Sì, però Bossi prima poi è stato. Bossi, la posizione di Bossi è stata superata. Cioè, la lotta tra Bossi e Marone ha vinto Marone. Ho capito, ma io non devo mica stare a dirvi se ha ragione Bossi o se ha ragione Marone. Dico che ha fatto Woodstock è fuori legge, perché non si intercetta un parlamentare deliberatamente per poi chiederne l'arresto. Lui non l'ha fatto, è fuori della legge. Non ha intercettato parlamentari. Ha intercettato Papa. Indirettamente il telefono di Papa. Sono quelle le prove. Ha intercettato il telefono di Papa. Quello di Papa, non quello della sua amante. Quello di Papa. Ma poi me la spieghi sta storia dell'amante russa. Ma devo chiudere, va. Grazie a Vittorio Sgarbi. Grazie. Renzo da Milano ha già risposto. Siamo per concludere. Giustino da Milano, velocemente, 30 secondi, Giustino. 30 secondi, fai richiamare me. Allora, democrazia sopra di tutto, gli eletti devono tornare cittadini normali solo con il voto. I leghisti sono stati coerentemente antidemocratici, ammesso che abbiano letto le carte, perché in questo caso hanno voluto antidemocraticamente mandare a casa un parlamentare, così come antidemocraticamente vogliono diminuire il numero dei parlamentari per sbagliare, massacrare la democrazia. Vabbè. Soglie di sbarramento. Domani, vai, il suo comizio lo fa domani, vai, il pippone a domani. Ci sentiamo domani alla Zanzara 18:30, ciao. La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni, bro. C'è una cosa... Non ti preoccupare. Radio 24. La passione si sente.